momento. La prima volta non che lo l'ha so. fatto partire sono Ah, no, ok, solo. io c'ho il 21%. No, io Questa sono al 50. musica chi la sente, no? Benvenuti, bentornati, rieccoci! La maledizione di Katta, Tycoons and Dragons, Rim GDR, sono qui per l'episodio numero Cinquantesimo episodio della maledizione di Katta, signori e signori, che ci state seguendo, E non ci siamo state allo seguendo. stesso livello del E 25esimo. siamo allo stesso livello di quando abbiamo iniziato. Pazzesco, pazzesco. Ebbene sì, ebbene sì. 50 è una cifra 50 tonda per chi sta cadendo in episodi, 50 massa. episodi sono tanti. Complimenti, Katta, anche perché credo che far fare così pochi livelli in 50 sessioni, penso che sia un record È ineguagliabile. difficile anche per lui, probabilmente. Cioè, Katta sta soffrendo. Cioè, sessioni È prese molto sotto sotto pressione, è molto sotto pressione, molto sotto non so, pressione. punti di Pensioni vista, di punti trama. di vista potrebbe essere colpa nostra in Invento realtà. adesso per farli perdere ancora più tempo. No, Esatto, in realtà noi ci siamo solo che no. indeboliti nel corso dell'avventura, cioè ne avevamo iniziati tutto sommato discretamente, poi piano piano abbiamo perso le poche armi che avevamo. Il senno, vabbè, l'abbiamo perso Assolutamente. subito, cioè che è stato modificato geneticamente. Abbiamo Ha perso tutti gli incantesimi. anche perso un giocatore, però abbiamo acquistato Marco, quindi per fortuna non c'è, anzi per sfortuna non c'è nulla da dire in questo senso. Prima di partire, prima di volare sulle ali di questo episodio 50, vi ricordiamo che ci potete seguire sempre sui nostri canali social, Tycoons and Dragons e Rip GDR, anche il podcast di Rip GDR. Lo dico sempre, ci saranno novità. L'importante è crederci, ma in realtà ce li abbiamo gli articoli, quindi Grazie, ma usciranno. te, a parte che dall'Unicredit, non sta venendo stuprato anche dall'allergia in sti giorni. Assolutamente sì, mi sto tenendo Ok. su solo con il cortisone potente e a Ah, volte vabbè. quando sono andato in campagna non bastava neanche quello. Ma questo ovviamente interessava moltissimo tutti i I 30 nostri ti hanno fatto telespettatori. proprio male, Vez. Come? Sì, esatto, è la morte. I 30 anni ti hanno fatto molto male. Non ho capito, scusa. I 30 anni ti hanno fatto molto male. No, beh, vabbè, ma io, sai, con la questione dell'asma ci sono dentro da un pochino e in realtà adesso Giulio, mi devi sentite parlare più anche. forte quando parli con Vez a 30 anni, mi Mi sembra. sentite anche con. Beh, anche voi, a dire la verità. Tranne Katta che è ancora un pischellino. Vedi come sono giovane. È Esatto. per Solo questo che non si perché chiama non ci fa vedere anni. sotto il mento. È per Va questo che si è bene, va bene. smembrato le mani. Cos'è? Però abbiamo qui il giovane della compagnia, qua, mio fratello. Marco, assolutamente sì. Assolutamente sì. Va bene. Chi è che vuole l'onore del riassunto del 50esimo episodio? Marco, puoi far partire la sigla comunque. Esatto. Mentre parlo io per il riassunto, così non sembra fregato. Marci, dai, grande, via. Non funziona così, Arci. Fatto. Marce praticamente non c'è stato per tutta la fine del combattimento. Non lo so, sembrava voler l'onore. Non è vero. Allora, nello scorso episodio mancava Ragazzi, che è sto Arci cancro? Che cosa sta e venendo? Cos'è Erdigno che alza la sto mano. cancro? Quindi, allora, per lo più, anzi, abbiamo sostanzialmente combattuto. Che bordello. Ma abbassalo, Abbassa il puoi volume. abbassare. Puoi Se abbassare ne il rega. volume? Io l'ho abbassato, per esempio. È che non posso abbassarlo io a tutto il server, mi spiace. Esatto, Posso. ognuno è responsabile di se stesso Cioè, io e io anche per il podcast. posso silenziarlo per tutto il server, però non posso Sì, abbassarlo è e basta. vero. Arci, puoi anche silenziarlo solo per te? Va Sì, bene. stai calmo. Va bene, va bene. Dopo la classico inizio di chiamata. Allora, nello scorso episodio, il 49esimo, sostanzialmente abbiamo proseguito nel nostro combattimento Abbiamo con fatto la. la 12ª puntata dello scontro con la strega. Esatto, con la strega Arizabalaga. Ah no, come si chiamava? Baba. Baba Lisaga. Lisaga, Baba Lisaga, lo so. Baba Lisaga. E abbiamo vinto. Abbiamo vinto, abbiamo dominato in lungo e in largo. nel senso di lungo e largo nella mappa, nel senso che siamo partiti dall'attacco via aereo, dove praticamente Arci con due aquile ci ha trasportato su questa, che ha, dalle prime descrizioni di carta appariva come una gigantesca nave, tipo con tutti con tutti i rematori nel cielo, avanti. Poi piano piano che ci avvicinavamo diventava, praticamente è diventata una specie di piattaformina. Era anche quella una magia della strega, chiaramente. Probabilmente. Alla fine era una strega su una scopa piccola. Fatto sta che l'aquila ci ha lasciato tipo paracadutisti. Io sono, mi sono paracadutato, ma proprio fino in fondo giù, e lì ho continuato nel mio leitmotiv della, del combattimento, di essere lontano dal combattimento. E mi sono appeso e mi sono beccato un dito della morte in faccia. Esatto, però Giulio è stato abbastanza eroico, perché comunque è riuscito a danneggiare il teschio, che poi è precipitato. Ed è precipitato nella magione in rovina, sostanzialmente. A quel punto abbiamo però dovuto recuperare la strega, che ha utilizzato tutto il suo potere per provare a fermarci. Peccato che, allora, in realtà la cosa più bella l'ha distrutta, cioè il fatto che Giulio sia diventato un Tyrannosaurus Rex che andava contro la strega, e quello sarebbe stato oggettivamente epico. Ma purtroppo cosa ha combinato Giulio? Io non c'entro nulla, lei ha fatto dispelli magie e ha distrutto. La strega ha fatto dissolvi magie, quindi purtroppo c'è stato il tirannosauro, ma non è arrivato fino alla strega. E nonostante questo abbia scatenato 4-5 meme nel mezzo turno che è durato comunque. Sì, comunque Katta, posso dire una cosa, c'è stata una piccola falla. Tu l'hai fatto fare dispelli magie perché sapevi che era una magia. Lo sa, perché infatti... No, poteva essere un tirannosauro nel giardino. Aspetta, Katta, quando parli dimmi che alzo il volume della canzone. Lei lo sapeva perché... Era che in un posto in cui ci sono i dinosauri, uno non dovrebbe saperlo, ma non ci sono, e quindi lo poteva facilmente immaginare. Quelli? Anche perché è una diciamo magia... che è casa sua. Conosceva anche lei, cioè, sa. Quindi comunque fatto sta che la purtroppo l'ha fatto svanire, però ci è arrivato in corpo a corpo, ci è arrivato Sheo, il buon Garrosh. Ho degnato tempo per riuscire ad agguantarla, e... esatto, e dopo Garrosh che ha dimostrato la sua solita resistenza quando i nemici cercano di intortarlo. Vabbè, però in realtà è stato importante. Ho un cuore buono, mi fido di tutti. In realtà è stato importante perché sostanzialmente poi alla fine sono arrivato anch'io, mi sono teletrasportato dalla strega e gli ho dato un colpo che gli ha fatto perdere l'incantesimo su Sheo, che avrebbe invece voluto uccidermi. Ma in realtà ha ucciso la strega, e quindi siamo riusciti a liberare questa tutto bene, ridente tutto bene. Cittadina da... Che finisce bene. Esatto, e adesso ci troviamo. Ah, e abbiamo abbattuto, nel frattempo abbiamo abbattuto anche la casa, ma quello all'inizio forse, o quella livellato. Prima. Abbiamo livellato? No. Sì, no, la volta prima abbiamo abbattuto la casa. Quindi siamo alla fine della volta prima. Sì, sì, è vero. Ecco. Va bene. Abbiamo livellato? Miei personali complimenti per la Arci. Secondo te abbiamo livellato? Non mi ricordo se siamo al 9 o all'8 ancora. Siamo al 12. Forse siamo scesi. Allora, siamo a 7. Adesso che ho capito bene come funziona, è più facile sparire l'ex arcano. Guarda, io non c'ero, ma scommetto le cose che avevo scritto sulla scheda. È passato talmente tanto tempo che si sono sbiadite. Il foglio è giallo e si tiene. Ragazzi, fortuna che le schede non sono fatte come gli scontrini, se no avremmo dei fogli bianchi. Quindi l'unica cosa che abbiamo fatto è stato cancellare le armi magiche e tra poco anche quelle d'argento. No, ti ho detto, io ho perso gli incantesimi, quindi easy. Tu Salla non c'eri, è vero. Giusto, Salla. Allora, per comodità di trama, ma anche non è una brutta scelta strategica, il caro Reis era andato in perlustrazione. Quando uccidete la strega, vedete... Non è molto verosimile, però. questo è quello, questo è quello che ci racconti tu. È un arcane trickster lui. Sì. Esatto. In realtà era rimasto a provare i suoi ruoli dentro al circolo di Menhir. Tipo, è tipo, ehi, perché non è nel combattimento con noi? Arcane Trickster, col tesserino. Quindi per quella scena, quando uccidete la strega e vedete dalle nebbie spuntare altre 5 sagome, alte esili che barcollando si dirigono verso di voi, quando dopo pochi passi queste cadono a terra e hanno le loro schiene puntellate da un notevole numero di dardi di balestra. Dietro di loro arriva Race tutto trotterellante, sì, dicendo: sì, sono nelle cinematiche queste cose. Non ho capito, li ha uccisi con delle armi che non ha. Salla, attaccali. No, ce l'ha la balestra. In realtà ne ho due di balestra. No, però ho ucciso 5 tizi che hanno resistenza a quel tipo di danno. Però, grazie alle sue abilità di... La PNG. Di PNG Arcanista. senza poteri fare il furtivo, perché non c'era nessuno che potesse aiutarlo a fiancare. Non solo, non posso neanche fare incantesimi. Cioè, perché immagino tipo Salla che diventa un PNG, tipo, ma cos'è questo potere? Incredibile! Come se fossi di 20 livelli superiore! Un livello da Arcane Trickster, ma 7 da te. Io vinco! Comunque, prossimo scontro in difficoltà, la sessione dopo io sto a casa. Esatto. Che ci mettiamo d'accordo una volta per uno. E arriva Salladini col carro trainato dai tarraschi che vi salva la vita. Agile. Vabbè. E quindi la calma ritorna sul campo di battaglia. Per terra rimangono il cadavere della strega, l'esercito sconfitto da Saladino. L'esercito sconfitto da Saladino. Migliaia di uomini. Esatto. E rimane il teschio della strega che si è schiantato al suolo e la sua capanna. Cioè, praticamente sul... il coso per terra così. Sì, lì è difficile da vedere. La descrizione sembrava un fasolino di noce. A un'attenta disamina con il microscopio vedete anche il teschio della strega. Lo metto in tasca, Catta, lo prendo e lo metto in tasca. In tasca non ci sta. È un teschio di un drago. È troppo piccolo per stare in tasca. Tra le maglie, tra i legami interatomici, vabbè. E poi rimane la casa... Animale. Cosa? Era il teschio di un animale. Cos'è? Era un teschio di un drago. Sì, un lucertolone. Però di quelli che sputano a fuoco. E vola. Sì. Deve spermato zoo del drago. E poi rimane la casa sull'albero e la cantina dove il fantasma aveva detto che c'era la salvezza del mondo. In realtà non è vero. E adesso... Mi sono andato a riascoltare la sessione per capire che cazzo vi aveva detto e in realtà sono stato molto stronzo perché praticamente lui vi disse andate nella cantina, troverete, e poi si è dissolto. E quindi ci siamo immaginati noi le cose. Quanto ve lo siete immaginati ed è stato molto bello. No, non è vero. Mi sono andato a riascoltare, ti giuro, mi era venuto adesso che anche detto... a me. Eravate così convinti che mi sono detto, boh, che cazzo gli ho detto? No, ma erano Sheo e Vet che erano convinti, non si sa bene perché. Troverete basta, no? Tipo, aveva detto comunque troverete la via o... Sì, troverete qualcosa di utile, qualcosa del genere. No, ha detto troverete, poi... Ah, ce lo siamo immaginati. Troverete, basta, no? Ha detto qualcosa. Qualcosa si troverà, se adesso troverete sarà un complemento. Esatto, qualcosa troverete. L'aveva detto. L'amicizia. Troverete l'amicizia. Sono andato a riascoltare la sessione scorsa. Va bene. Anche. Comunque ci sta, è molto divertente. Bene, quindi cosa fate? Yes, eccolo. Seguitemi. Se vi ritroverete soli a cavalcare su verdi praterie col sole. Questo cos'è, il gladiatore? Non solo sulla faccia, col sole. Col sole. Ah, c'è la scena in combattimento, cazzo, accendo subito. Sarete tra i calamari e l'isi. E sarete già sgusciati. Lutto la capanna, la casa. Ok, tu lutti la casa, gli altri? Io lutto la strega. Io non ho due punti ferita. Io avevo liberato anche i corvi, tra l'altro. E sì, c'è... che sono stati inceneriti da una palla di fuoco. Erano stati distrutti. Beh, hai messo la foto del mio PG? No, Arci, però la metteremo. Perché adesso ho anche la testa di drago, quindi posso prendere il cranio del drago. È vero. Ti sta un po' largo. Se... Guarda che ti sei corretto. È vero, Arci, puoi usarlo come orecchino. Esatto. E soprattutto tra i corvi imprigionati c'era il figlio scomparso di Martinkov, il caro Dacco. Esatto, e io gli ho detto di tornare a casa, e lui se n'è tornato? Cazzo, era vivo, devi ucciderlo, Vezza. No, no, era il primo quando è arrivata la palla di fuoco, era il primo che guidava la casa. No, no, lui era rimasto nella capanna. Era rimasto nella capanna perché era svenuto sotto forma di corvo. La devi ucciderlo, non ci può essere un figlio di Martinkov. Un bravo codardo. Yes. Esatto. Non può esserci un figlio di Marti convivo, devi ucciderlo subito. Sì, un giovane incatenato in fondo a una stanza, il nostro padre. Uomini dell'Ovest. Sono i più pericolosi i giovani incatenati. Terribile. Bene, allora, dov'è? Devo aggiungere Race ai segnalini. Ai segnalini? Ah, sì. Vedi che c'è. Io vado da iperinformatici adesso. Io vado dal Martinkov per aiutarlo a ristabilirsi. Puoi ingrandire Sal al suo schermo. E non so come si fa. No, l'avevo già fatto. Clicchi sopra. Cantabriga. No, sopra è comunque piccolo. Li avevo già fatto. Come? Il Mac è un po' particolare. Ah, ok, tu hai il disagio. Gli avevo fatto ben 3 punti ferita. C'è un modo per allargarlo, ma no, non due, no, sì, 3. Infatti lui si è risvegliato. Sì. E io ho detto, vola da tuo padre. Prima che gli altri della mia compagnia ti uccidano senza pietà. E vai, passeggiamo con i corvi. Addio. Nel loro becco verrò il sangue. Effettivamente Atanas ha parecchie sessioni che non fa una delle sue mosse, cioè... Sì, è vero. Fate strano, Giulio, che da tirannosauro tu non sia fuggito alla ricerca di bambini. Non ha fatto in tempo a fare niente. Non ha fatto in tempo. Cerca di bambini. Okay. In pratica, io da tirannosauro sono andato dove era caduto il teschio della strega, non l'ho vista, ho iniziato a far casino e sono usciti tipo 2 milioni di serpenti giganti che hanno iniziato a correre. È apparso Albano e l'ha ucciso. Allora, Race e Vardistran quindi rientrano nella capanna. Hai visto il video in cui ha messo la faccia di Albano al posto del meteorite? È bellissima, sì, sì. Anche quello al posto di King Kong che uccide il... Sì, anche e allora, torniamo a noi. In realtà questa quarantena ha fatto tante cose buone. Sì, è vero. Qui in Italia. Tra il ritorno di Boris e tutto quanto. Che non so se è una risposta da nerd o una risposta semplicemente da uno che vive. Entrambi. Secondo me è più da nerd. Perché in realtà lockdown c'è stato. Però... Esatto. Bene, quindi Pat, che tu vai a prenderti il teschio? Sì. Ok. Esamini. Ah, faccio un investigation con la lente di ingrandimento per cercarlo. Ok, lo trovi. ho fatto un diventi naturale. È un teschio gigante. che diciate? Io stacco la testa alla strega. A spostare la mano. No, Katta vuole dire che è un teschio di topo gigante. Quindi tipo così. Allora, praticamente vedi che all'interno è pieno di iscrizioni e di rune. Mm-hmm. Le scritte sono in nanico, ma non riconosci nessuna parola di senso compiuto. In nanico hai detto però? L'alfabeto è nanico. Mm. Ma tu sei comunque un alfabeto, pur se nano. E conosco anche il druidico, capo, non mi cambiano mica. No, non è druidico. Magari se mi dici la pronuncia riconosco la lingua. Molto meglio, rega. Non capisci un cazzo. E niente, la... Ah, giusto, fai un... Può natura... essere infernale scritto in nanico. Aspetta, conosco il celestiale, tra l'altro, quindi niente. In questa campagna conosco il celestiale. Non fare confusione. Abitudine, vecchie abitudini. Sì. Cosa, Giulio, conosci le parolacce in celestiale al massimo? No, conosco il celestiale, tutto come lingua, conosco il celestiale, il comune e l'elfico, e l'elfico. Cosa devo tirare, K? Natura. Tutte queste perché i nemici vanno conosciuti per bene. Allora, tira un morto. Ah, no, aspetta. Poi, mentre tu fai questo, allora ci sono i due che hanno... Natura. 16 di dado, più avrà un più 6, tipo. Ok, è il teschio di un drago d'argento. Merda. Gli altri che non vanno nella capanna vogliono liberare l'accesso alle cantine? Ad esempio, io prendo un ramo. Sì, ma cosa fa quello il Martinkov? È andato via? Martinkov è ancora lì impaurito che vi aspetta e si sta ribeccando. Sta bene fisicamente, mentalmente un po' meno. Certo che è un corvo che si sta ribeccando. Tu, Atanas, avevi preso stai prendendo la testa della strega, giusto? Sì, io taglio un ramo dell'albero, lo appuntisco, stacco la testa alla strega, la pianto sul ramo e poi ficco da qualche parte. Il ramo dentro il corvo. Da qualche parte dentro la casa albero? No, lì di fronte alla casa albero. Vediamo noi che fa così e Veschi dice, ma no, c'era il figlio di Martin. Esatto. Voglio mangiare i corvi. Ok. Quindi ok, Garrosh sta scavando la cantina e non so se qualcuno mi vuole aiutare. No, sì, avrà il mio aiuto. Che uno basta da solo ci mette 4 ore. Basta quindi. Fare il paladino. Faccio il minatore. Esatto. Cosa mi basta fare il paladino? No, nel senso, al cicciolino ho già detto cosa deve fare, non è che posso stare tutto il tempo, cioè. Se sta lì a fare e poi arriva Giulio che i corvi, in realtà ci sto andando io dove i corvi esatto, avete visti nello allora, stomaco di Atanas per la prima volta all'interno della capanna. È stato pesantemente distrutto dall'ira di un crudele gorilla gigante, un malvagio caotico gorilla gigante. Lutto tutto. Allora, dentro questa capanna ci sono, vabbè, a parte le vecchie mobilio e vari tavoli e sedie e marce, tutto quanto è inchiodato al pavimento per impedire che si muova e sobbalzi quando la capanna si muoveva. Per impedire che i vistani freghino tutto, diciamo. Ah, ecco, questa ci posso credere. No, qua i vistani non ci arrivavano. Io prendo fuori i attrezzi da ladro che contengono. C'è il campo dei vistani lì dietro, abbiamo visto tutti. Tiro fuori i miei attrezzi da ladro che, vista la regione, contengono un martello, coso dietro del martello per tirare via i chiodi. Di cose interessanti, qui dentro c'è un grosso forziere rinforzato con delle bande di ottone, una vasca da bagno di ferro incrostata di sangue. Mi tenta un po', però mi stai andando sul forziere. Sicuro? C'è anche la scatola misteriosa. Scatola misteriosa. La scatola misteriosa. Io lo guardo e vedo scritto scatola misteriosa. Cioè, sì, tu vedi tipo il forziere, questa roba inutile, e poi una scatola con un punto interrogativo. Ci sono le due grosse gabbie per uccelli molto grandi che tenevano i corvi che sono stati liberati. Poi per terra c'è che si dondola ripetendo ossessivamente le parole oscurità, tentacoli. La strega arriva, c'è il caro Doug Martinkov. Schiavenone, sì. Insomma. Esatto. Posso provare a far riprendere Martinkov. Tu sei lì che stai decapitando e piantando la testa della strega. Quando ho finito, me lo dici e ti dico cosa faccio. Bene. Senza la lingua non potrà ripetere queste parole. Non ridurla icona, cattino. Beh, ah, vabbè, la conosciamo ormai la situazione. Cioè. Senti, okay. Le uniche quindi cose se io tocco qua, sono... guardo in diretta, cosa vedo? Vedi quella schermata lì. Le uniche cose allettanti sono la scatola misteriosa e il forziere. E la vasca incrostata di sangue. Grazie, ok. E la vasca incrostata di sangue. La scatola quanto è grande? La vasca quanto è grande? La scatola quanto è grande? La vasca? Questa no. Cazzo di vasca, non ci vado. Non la voglio vedere. Che in ricordati che c'è anche la vasca, La scatola misteriosa in realtà si riferisce a la, diciamo, l'insenatura che c'era sotto al pavimento dove veniva, c'era la gemma che è stata presa per una volta uccisa la casa e che, da cui prendeva il potere magico per animarsi. Giulio se l'è mangiata? Non si sa. Apra forziere. Non ancora. Allora, il forziere si apre. Così. E dentro c'è una scatola misteriosa. È il forziere che ha aperto. Fai bravo che non ho più tanto posto. No, e dentro c'è mezza scatola misteriosa. Ah, brutto. Allora, quando apri il coperchio, si forma nell'aria un simbolo runico luminoso. Non lo so. Quindi... ah, posso fare un sapienza arcana? No, l'hai aperto tu. Semplicemente la runa luminosa che compare una volta aperto esplode e... come vedi? Salla che voleva fare dei tiri per evitare i 45 danni. Poveri idiota. Oh. Okay. No, ma semplicemente niente, svai svenuto. E quindi sto cercando che tiro devi fare. Zero. Dai, gatta, sono tipo 12 sessioni che non perdo un punto ferita, non puoi interrompere questa streak. Zero. Okay. Devi continuare la tua carriera da PNG. Esatto. Non puoi fare nulla contro il PNG. Comunque, rega, c'è stato un periodo in cui io mancavo sempre, non ho mai fatto sta roba eroica una volta. Cioè... ma eri morto, per lui. No, sì, anche. Ok, va bene. Mancavi la campagna di Vez non è come Katta. I PG sono normali e i PNG sono un po' più lesi. Il Katta è tutto l'opposto. Ok. Delle scariche elettriche attraversano il tuo corpo, infliggendoti 13 danni. Continuo salvezza su? No, diretti. Però pensa che i numeri non aumentano mai. Che becca falla tipo da... aspetta, piano. Ho dei punti ferita temporanei che mi dà Marco. Potresti. Non lo so. Ma non eri peccato. Neanche con noi. No, peccato. Ok. E dopodiché dal forziere escono una gamba, un braccio e un altro paio di mani decomposte e con artigli, gli artigli affilati e che ossessivamente cercano di afferrare quello che hanno intorno di vivo. E tira l'iniziativa. Ah. Che rottura di cazzi però. Ha avuto il suo combattimento il PNG potentissimo. 24. L'altra volta si è collegato un po' prima, sì, ha visto Katta giocare a Dark Souls. Sì, a un certo punto è apparso un Mimic e lui ha detto il Mimic figo, maledetto. Okay. Per darti l'idea, queste strisciano fuori queste robe dal forziere che ti attaccano. Salla, poi non è un mini, che sono proprio i pezzettini di cadavere. Sì, di sì, ma tanto io me ne vado, 24. Ah, non è il mini. Inizi tu. E vado via. Ciao! Va bene. Potresti usare il tuo carisma. Potresti usare il tuo carisma per interpretare uno zombie, magari ti ignora. No, aspetta, se ne va con Martico. Esattamente. Darò il beneficio del dubbio, Vez potrebbe ancora essere lì di fianco. Sei ancora lì, Vez? Si tira un dado. Cioè, io apro la cassa, prendo i danni, poi vedo quelle merda e faccio, oh cazzo, e scappo. Va bene. Stavo andando da lui, dai, facciamo così. Okay, io facciamo il paladino di sicuro in alternativa avete sentito il tuono dell'elettricità che esplodeva quando è stato aperto il forziere. No, vabbè, ci sta comunque. Che... per un attimo penso che sia normale perché il personaggio di Salla faceva sempre Thunder. No, no, vabbè, ci sta. Un'altra campagna, però. Sì, era... vabbè, ci sta, dai, che andassi... ci sta che andassi dalla casa. Vabbè, oddio, dipende ognuno di noi. Ma no, vabbè, è giusto mettere prima Martin come in sicurezza. Dai. Quindi sono... mi stavo avvicinando lì. Cosa devo fare? Iniziativa. Anche Atanas che è lì vicino. Oh, un bel 3. Ok. Non... io ho fatto... Verso ogni volta c'è un combattimento, inizia con un sonnifero. 13. No, con la zavorra, tipo. Tra l'altro io... no, no, c'è ancora una cosina. Anche, forse si può immaginare così, tutti corrono a combattere, ma lui non è un paladino che gli estrae lo spadone, fa un discorso e poi parla. Ma forse è tutta. No. Tu? Hai 65, sì. Ma quasi, vai. Ok, sentite le urla di... È che Vardi strano estrae lo spadone in slow motion tutte le volte. Da lavarmi l'occhio. Sì, esatto. Intanto voi correte, lui... sentite le urla di Martin proprio venire dalla capanna. Vai, va a lavarsi l'occhio di Saulo, anche detto se destro o sinistro, l'occhio di Arci, l'occhio di Saulo. Atanas, tocca a te, senti le urla di Martin venire dalla capanna. Cosa sto facendo in quel momento esattamente? Stavi piantando la testa della strega sul paletto. Puoi usarlo come giavellotto. Sono già a quel punto lì. Leccando il sangue dalle dita. Ce l'hai in mano, puoi usarlo come giavellotto. Allora, portandomi dietro il palo con la testa della strega conficcata, okay. Entro nella casa. Bene, vedi questi quattro arti che stanno coprendo il povero Doug e cercano di... Sarà già che mi hai giocato a chiappa la talpa. Ma io dove sono scappato, scusami? Sono sei scappato qua di sotto. Ah, ok. La capanna è alta una ventina di piedi, quindi sei saltato giù sull'erba e... Cioè, praticamente si vede Salla che esce, tipo, smette il cappello, arriva Giulio con questo bastone, fa buonasera. No, beh, prima esce Race e poi entra Atanas. Posso attaccare sti cosi? Sì, li puoi attaccare. No, aspetta, che cazzo dico, però? Io ho 9 punti ferita. Che te lo fa fare? Race esce dicendo, il mio lavoro qui è finito. Aspetta, quanto hai fatto tu iniziativa? No. Niente, e riesce... è 3. E riesce Giulio, e arrivo io, e buonasera. Ma non prendi... Rega, che cazzo andate sugli amici? Non prendete punti esperienza, non siete livello. Vabbè, il mio personaggio lo farebbe, dai. Uccidiamo Martin. Aspetta, con che arma, Giulio? Con le due spade. Con la testa della strega. Con la testa della strega. La testa della strega sul palo è un'opera d'arte, non è un'arma, non la posso usare. Sì, ma vuoi mettere, fare acchiappa la tappa? Il simbolo della casata. Ma vuoi mettere, prendere la mano e attaccarla con un palo all'abbraccio della strega? E devo tirare per ogni arto o tiro e ti dico random? Sono quattro separati. Se combatti con due mani, ci tirerai due volte. 1-24. Colpisce. Faccio 8 danni. Ok, hai tagliato una mano a metà, ne rimangono 3. Un secondo faccio 18. Quelli che hanno resistenza. Chi sta ascoltando? Ero io che volevo vedere se sentiva. Giulio, forte che 18 e faccio 13 danni. Ne rimangono due mani. La diretta è vecchissima, cioè 12. Era l'entrata in scena di Salla. 12 colpisce. Stavo parlando Giulio, la diretta. 12 danni. Un botto in ritardo. Rimane una mano. Indietro. E no, poi ho finito gli attacchi. Atanas. Eh sì, perché Giulio stava dicendo 5 personaggi che hanno anche resistenza in quello. Quando l'ho detto? No, ma l'hai detto adesso, una resistenza. Rimane una gamba che sta prendendo a calci. Una resistenza agli spaventapasseri, sì. Ma chi sta? A te. Me? Sì. Allora provo a colpirla, sta povera gamba. Prego. È un garpet. 25. Manca. Ma 16 danni. E la taglia a fettine. Bene. Dovresti ucciderla dicendo che il tuo falegname con 30.000 lire la fa. Taglia a fettine. Tutte le fettine si scagliano contro Martin. Vedete che questi pezzettini di cadavere sono usciti dal forziere che adesso è aperto. Ah, ma se non c'è casino, lo torno dentro. Ehi, buonasera! Torno, eh. No, aspetta. No, cattivo. È la più alta, succhi. E io chiudo la porta, è ancora il mio turno, ancora un'azione. Io chiudo la porta. C'è un muro sfondato in sta capanna, non è che... Io, quindi le ste mani sono morte, sì. C'è il forziere aperto. Dico, stai dicendo, Giulio? Il forziere adesso è pulito, puoi venire. No, io vedo passare e poi mi volto, vedo entrare e poi faccio, vabbè, sti cazzi, entro subito. Quindi voi avete ucciso le mani e avete fatto race e intanto io sono lì dietro, sì? Esatto. Il forziere adesso è pulito. Il forziere aperto. Cosa dentro ci detto? Sono... un migliaio di monete d'oro. Vabbè, 1300 per la precisione. Sì, sì, sì. Ci sono 5 gemme del valore di dell'infinito. 500 d'oro. Aspetta, tesoro. 1300 monete d'oro. Quando è che abbiamo trovato un tesoro? 5 gemme che l'hanno regalato gli zing. È vero, perché i pochissimi, che avevamo li prendeva Salla, in effetti. Però in realtà giro con un forziere con 800 monete d'oro. Però. Infatti, allora, quelli che troviamo insieme però. Vanno tutti nella cassa comune, quelli che trovo da solo vanno nella cassa privata. Ma le spiego una cosa molto semplice: cosa ve ne fate? Mi dà 500 monete d'oro. 500? E non servono niente in Barovia. Poi c'è una boccetta che contiene un olio. Beh, questa la vuole qualcuno? Sapienza arcana. Wow, wow. Dai. Vai, arcana. 9. Pessima battuta. Vero. Non sapresti dirti, non sapresti dire che cosa contiene con un rapido esame. Ti no, grazie. Un esame più approfondito. Gli altri incantatori? Magari... Ma è un olio? Magari il druido. Tiro anch'io. Una sostanza oleosa. O il bardo warlock. 19 di dado, catta. Posso non usare natura? Io non sono lì. Lecca il teschio, Arci. Vabbè, allora, dopo comunque la sta boccetta gliela facciamo vedere, nel senso. Sì. Rendiamo le cose più rapide. Sì, bravi. Allora, vediamo. Io la sbatto per terra. Lecca più velocemente il teschio, Arci. Allora, questa sostanza gelatinosa sbrilluccica, come se all'interno ci fossero delle piccole schegge d'argento molto sottili. E, ok, va bene. Di fatto, per identificarlo, basta che qualcuno ci passi un riposo breve a coccolarselo. Poi ci sono delle pergamene. Le pergamene che trovate sono di cura ferite di massa. Le pergamene le prenda chi le vuole. È inutile metterle nella cassa comune. Pergamene vuol dire che poi devi usare un round per castare, però. come tutte. Pare può castare chiunque? No, devi averlo tra gli incantesimi, mi sembra. E allora abbiamo risolto. E... devo segnare in casa comune. Metti Giulio, scartoffi in cassa comune. Ah, ci dà le ricompense che non possiamo usare. I soldi e le pergamene che non possiamo usare. Ma i soldi qualcosa avevamo usato recentemente. Cura ferite, sì, per fare, le monete per d'argento per fonderle sulle armi. Che tra l'altro è stato maledetto e quindi ci va a perdere. Non vi fa recuperare gli incantesimi. Esatto. Buongiorno. Massa, farmi un lingotto d'oro da 800 metri. Aspetta, d'oro. Cosa? Cura ferite di massa, revivify. E, Greater Sfans. Restoration utile senza l'AS. Adesso mi devo riguardare come le regole delle pergamene. Secondo me, tipo gli incantatori dovrebbero riuscire ad usarle, magari facendo una prova di The Athletics. The Athletics, esatto. Poi trovate un sacchetto che contiene 10 proiettili da balestra, ma non sono proiettili normali. Vedete sì, che sono... non farli usare a Salla. Questi io li darei a Salla. Ma sono proiettili non da balestra. No, Giulio. Ragazzi, chi ha una balestra? No, non è questione di chi ha, è questione di non dare a Salla. No, scusa, ho detto balestra, volevo dire fionda. Sling. Fanculo. Fionda di merda. Questo è tipico, fa. E poi trovate delle frecce? Io uso l'arco. Ah no, aspetta, volevo dire... delle quadrelle. No, però è stato onesto, capo, fa. Ho trovato delle frecce da balestra, però non sono per la balestra, sono per la fionda. Quindi 10 proiettili di fionda particolari. Pegnale a caldo. Trovate poi c'è un meraviglioso strumento musicale. Esatto, eccolo. Bravo. È un bellissimo strumento musicale. Beh, strumento musicale dai al bardo. E... ma non è uno strumento particolare. Dipende. Finto bardo. Che strumento è? È uno strumento a fiato. Che sia un tamburo. A fiato? Le pipes sono tipo le cornamuse, no? Minchia, adesso arriva il paladino. Bruciamo tutto, è oscuro questo tesoro. Quindi non ho segnato quali strumenti. I flauti tipo quelli in fila, in serie. Tipo flauto di pan. Sì, tipo. Sì. E Giulio, poi... per non sprecarli, quei proiettili li metti a Calvus la prossima sessione, grazie. Vabbè, io scrivo cornamusa perché fa più figo. Ok. Ma non è proprio la stessa cosa. Sono diventata una cornamusa. Sì, sono d'accordo, è più bella la cornamusa. Okay. Aspetta, non la prende Marco. Marco. Sta pensando. Allora la prendo io la cornamusa. Ok. Così suona la cornamusa e il flauto. Okay. Ah, beh, allora l'ambientazione è un po' scozzese, quindi la cornamusa ci... Ok. Siamo nell'est Europa, l'ambientazione è un po' scozzese. No, però c'è il clima, un po' è quello. Il clima, ma sì, vogliamo. Chiaro, il clima è quello dei rumeni, della Transilvania, è quello. Esatto. Quindi... antiche chiese, verde... E poi c'è in fondo una pietra preziosa, una grossa agata... E, estremamente nel senso lucida. Che è grassa, nel senso esatto. Che... è grassa, lucida, e quando viene tenuta in mano sentite come una sensazione di cazzo. Diciamo di serenità. Beh. Ok. Ma tipo chi ha rituale Detect Magic? Io non ce l'ho. Io non posso usare incantesimi. No, Marco, ok. Sì, ce l'ho. Il sottotesto era Marco. Alternativamente, passare un riposo breve insieme a un oggetto magico ne rivela le sue proprietà. Sì, ma io stavo calando la testa di una strega, quindi ho da fare. Vabbè, ma in ogni caso penso che passeremo tutti un riposo almeno breve qui per guardare bene la zona, la casa. Anche di più, perché io ho due punti ferita, quindi... Detect Magic non dice cosa fanno gli oggetti. Ti dice che cosa è magico e cosa è no. E che tipo di magia, credo. Vabbè, per ora li tengo io tutti nella cassa insieme a... Vabbè, uno di noi, può passare un riposo breve su, su queste robe. A parte la cornamusa che ce l'ha salva. Sì. Okay. Vedi che avete scaricato l'iPhone. Ma hanno... Vabbè, chi se ne frega, però. Non vi voglio infastidire. Grazie, hai parcheggiato in Piazza Rossini? No. Ma non c'è il prato? No, lo devono rimettere. Non c'è ancora. No. Bene. Nel frattempo... Non è bello avere un'area verde sotto casa? Sì, sì. Nel frattempo... metti che ho il bagno occupato. Devono morire male. Come sei acido, vero? Nel frattempo liberate l'accesso alla cantina. Ah! La cantina... Il sudore di pochi uomini. Adesso ci ritroviamo un'orda di scheletri da combattere. No, salla e scatta, scusa. Il Doug è vivo? Doug è vivo, sì, sì. La sua salute fisica è al top, quando, anche perché l'hai curato. Allora voglio fare un medicina per capire, per quanto il mio medicina sia un po' inutile, però tant'è. Per capire se lui è recuperabile oppure è bella lì. Beh, 6. Okay. Non c'è più nulla da fare! Sta una meraviglia. Il trauma è stato troppo lungo, è grosso. Probabilmente, no, la risposta è probabilmente era già così. Io mentre lavorano vorrei starli fuori e suonargli la cornamusa per incitarli. Ok. Le cose della cornamusa sono estremamente bello, come carta ci dia un loot e noi lo modifichiamo, basta scrivendo la cosa come piace a noi. Lugubri. Quante monete d'oro ci sarà maledetta al 100%, quindi almeno ci divertiamo. La cornamusa al posto di flauti, cioè finché è flavor puoi modificare quello che vuoi. Flavor, diciamo anche livello 10 flavor. Esatto. Quello non è flavor, quindi esatto, flavor dice fate arrivare i personaggi almeno al 15° livello, però per flavor lasciarli all'8°. Ok, i suoni di questa cornamusa sono estremamente spaventosi. Ma il progetto magico è quello. Le persone che l'ascoltano nelle vicinanze hanno brividi e si sentono molto a disagio. E la condizione di Doug peggiora ulteriormente sentendo il suono. Vabbè, dopo un po' che sento sta merda lo metto via e comincio a suonare il flauto, allora. Okay. Quello di Electrum. No, secondo me vai da Doug. Ah, quindi questo ti dà fastidio? Non suoni. No, faccio il bravo che sennò Vovezzo si inalbera. Anche perché stavi suonando per incitarci. Stavi suonando per incitarci e ci stai mettendo a disagio. Per cui... Performance per vedere se il suono del flauto riesce a consolare il povero. Adesso fa uno dei pezzi della cornamusa. Ti prego, riprendi l'altro. Esatto. Ok, comunque avete scoperchiato l'accesso alla cantina. Sì. E la cantina è una stanza di 30 piedi e, con muri di pietra. Il soffitto è alto 10 piedi ed è supportato da travi di legno. Cavolo, comunque, abbiamo aperto la cantina e abbiamo scoperto una descrizione. Cosa ti aspettavi? Il pavimento è sommerso, è allagato da acqua stagnante, profonda 3 pollici. E la cantina contiene... Così, esatto. La cantina contiene... 12 comincia così e poi prosegue così. No, 24 due dozzine di di botti di botti marce con il marchio, diciamo l'etichetta della vineria del mago. Ah. E ogni botte è, l'etichetta riporta il nome del vino, il champagne d'Oulestomp. Quindi questo è il vero tesoro. Questo è il vero tesoro. Che culo. È vero. No, è così, però. In realtà sì, per Barovia assolutamente. Basta, chiedetelo. Fate tacere quell'arcade trickster. Una volta per tutta piazza. Questo è meglio. È andato a ballo con il corvo nella bar. Ad un attento esame, la prima botte che prendi è martita. E... qualcuno fermi questa cosa. Cosa è successo? Quanti ricordi però, rega, dai. Ci siamo passati tutti. Direi che è famosa a questo punto. Bellissimo questo, ma dove... ma chi è Arci che lo fa? Come Vez? Cos'è tutta lì? Un video su YouTube. Ah, ok. E non vedendo Arci pensavo che dovesse essere lui. È Titanic fatto tutto di merda. No, è ognuno di noi se riprende il flauto di 15 anni fa, più o meno. Io molto peggio all'epoca di questo che abbiamo ascoltato. Si vede che non l'hai ascoltato bene, ragazzi. Com'è che erano le note? Vabbè, dai, continuiamo. Io mettevo sulle dita e non suonavo quando facevamo il gruppo. Comunque, Vardistran, la prima botte che, su sì, cui poggi il tuo guanto d'arme si disfa dal marciume del legno e rivela che il contenuto è vuoto. Ad un più attento esame vedi che la maggior parte di tutte le altre botti è nella stessa condizione. Che abbiamo trovato nella cantina. Una volta lo era. In fondo... riesci a rinvenire una botte ancora integra. Vabbè, ma... e dentro è vuota. Ancora non era stata ripresa. Ma quindi qui c'è solo questo? Sì. Ah. E noi volevamo sconfiggere... io pensavo di sconfiggere la strega con una botte. Magari è del legno marcio. Ma sì. Cavolo, è andata bene la strega. Se avessi scoperto questa arma definitiva, sareste stati avrebbe capitolato molto prima. Va bene, salviamo la botte e magari qualcuno di noi, se nessuno si propone, lo faccio io. Cerco oppure apriamola, passaggi segreti, oppure fanculo, apriamola, beviamola noi. No, io guardo se ci sono tipo passaggi segreti o robe del genere. Allora vediamo nella botte. Fammi un perception. Arci, prendi fuori un flauto, su, forza. Non ce l'ho. Aia, malissimo. Quello delle medie? Perché mi infilo nel culo, non li lavo mai. Ah, hai ragione. Se sono troppo distratto nel fare sta cosa per cercare passaggi segreti. Bellissimo, capolavoro. Tra l'altro anche il video originale in realtà è abbastanza inquietante. Non è bello come quello delle... L'intero della BBC. Dei Cassamortari, no? La musica è quella però, no? No, dico il video della canzone, non del documentario. Cioè, questa, la canzone si chiama tipo... Astro qualcosa, astronomy, del genere. E c'è questo tizio con una maschera d'alieno che va in giro a cercare qualcosa, a puntare delle pistole giocattolo contro la gente. Dai. Allora, Perception, Garrosh? Vado. No, ora in testa ci dormirà questa musichetta di merda. 16, buono. Allora. C'è anche la versione tipo medievale. Esplorando la casa, sì, arrivo ad una piccola corte, una piccola cortiletto interno. Al centro di questo c'è una grossa pietra. Cioè io, aspetta, non so se ci hanno capito, io intendevo la cantina. Ah, nella cantina, no, ok, sì. La cantina è piena di legno marcio e il pavimento è ricoperto di acqua stagnante, quindi c'è putridume e basta. Pensavo la mia idea era guardare le pareti per vedere eventuali passaggi segreti. No, anche perché si vedrebbero dal passaggio dell'acqua, quindi sei sicuro che non ce ne siano non ci siano. Però il mio istinto mi dice che forse fuori c'è qualcosa. Fuori, appunto, vai a curiosare e trovi questo monumento. Ricoperto di muschio e di vegetazione. Ok, e su questo monumento c'è un'iscrizione. Ok, e dice: nascosto dalla nebbia e innalzato di pochi piedi sopra le paludi circondanti. Che cazzo di gioco, mi va sta musica qua? Beh, mi far piacere che di avervi ritrovato esattamente dove vi avevo lasciato. Vai, catta, questo è il sottofondo. È perfetto, infatti. Ma questa versione è poi veramente bella, spettacolare. Okay. Hai trovato dei passaggi segreti? Una corte interna dove c'è al centro questo monumento. Ripeti le ultime frasi perché mi ha assordato la musica per un attimo. Perché ti dicevo, questo monumento è innalzato di qualche piedi rispetto al livello, diciamo, della palude circondante. Ed è all'interno di un piccolo recinto di ferro che ormai è completamente arrugginito. Al centro c'è questa riproduzione in scala naturale di una ragazza. Mm-hmm. Una domanda, Katta, scusami, qual è il rapporto tra la SIAE e Facebook? E Facebook? Boh, in genere è più YouTube che tira giù i video. No, infatti, YouTube il rapporto tra YouTube e la SIAE è fottetevi, non andate in onda. Boh. Ok. No, che funzioni soprattutto a segnalazioni, credo. Molta gente quindi se qualcuno ci segnala sappiamo che è uno di voi. Esatto. Ma al massimo possono lamentarsi gli autori di questo video. No. Vabbè, nel caso link in descrizione. No. La posa di questa statua è quella appunto di una ragazza, una paesana, che si inchina su una rosa. E nonostante le sue fattezze siano ormai consumate e occultate dal muschio, ha un'incredibile somiglianza con Irina Colliana. Basta, Kata, è rotto. Alla base della statua c'è un epitaffio. E l'epitaffio dice: Marina presa dalla nebbia, rapita dalla nebbia. Ma questa è morta ovunque. Sì, sì, tipo l'hanno sempre ucciso tipo i genitori o sì, anche questo agli angoli della mappa. Sì. Tutte le volte che tornava faceva una fine miserevole per colpa di fratelli. Certo. Neanche manco Garibaldi è sta, no, chi era Manzo, che cazzo è Garibaldi che ha fatto qua, è stato Garibaldi qua. Qui è morta Irina, anche qui è morta Irina. Ok. E che cosa fate? Irina fu ferita. Io ferita di una gamba. buff. Cosa Cata, facciamo? Ho finito di impalare la testa della strega. Hai impalato la testa della strega. Ok, sono contento. Beh, abbiamo recuperato la gemma, vero? Vedo come sta Martin. Sì, hai detto io. Abbiamo recuperato? La gemma. Giulio. La gemma. Ce l'ha Giulio. E noi lo sappiamo? L'ha messa nella bocca della strega impalata. A mo' di mela. Non lo so, lo sapete, lo sanno Giulio. E la strega torna in vita. No, direi di no. Se lo dici? No, prima devo tentare di mangiarla, poi nel caso ve lo dico. Ok. Ok. Dopo che ho imparato la strega, vedo come sta Martinkov. Beh, Martinkov fisicamente sta bene, mentalmente è sotto shock. Okay, lo prendo e faccio vedere la testa impalata della strega. Ma... cioè, lo prendo di peso dalla collottola. Allora, abbiamo recuperato Martinkov, abbiamo ucciso la strega e abbiamo recuperato una botte di vino. Vabbè, andiamo. Poi lancia un urlo terrorizzato e fa per scappare. No, non sto tenendo io. Ma lui cerca di scappare, cioè tipo corre, come dire. C'è una persona sotto shock, tu gli hai fatto vedere una testa impalata. Sì, è del suo carceriere, cioè nel senso. Sì, ok. Una terapia d'urto, purtroppo ha fatto un tiro di merda e quindi ha avuto l'effetto. Ma, beh, sì, io ho fatto la battuta, ma tu hai controllato se la botta era piena davvero? Allora gli tiro due schiaffi. No, credo che Katta mi abbia fatto capire che questa è piena, è l'unica piena. Sì, hai trovato una botta piena. Devo tirare. Esatto, quindi devi tirare lui. Ok, continuo ad urlare ancora più forte. Okay. Okay. Allora mi avvicino. Se vedo questo scempio, cioè se sono talmente ritardati a far sì che io possa capire questo scempio. Allora lo faccio. Vado lì e dico, smettetela, ha già sofferto abbastanza, non avete pietà. Il druido non può fare un intruglio di erbe per farlo calmare. Io sono trasformato da gorilla e faccio la stessa danza della cassa. Questa oscurità... Catta, cerco di far calmare Martinkov, devo tirare. Tu e Vardistran provate a calmarlo. Aspetta, c'è il mio soliloquio. Fai il tuo soliloquio. Detto il tuo sproloquio. Esatto. Sì. Scusa, cioè, io ho questo qui. Il mio sproloquio è tipo, io vado lì e faccio, basta, smettetela, perché farlo soffrire ancora? Ed ho già sofferto abbastanza. Ho già sofferto abbastanza, questa oscurità mi ha trasformato in dei mostri, ci ha trasformato tutti in dei mostri, folli. Faccio un tiro di volontà per vedere il discorso di Vetto, se mi ha fatto effetto. Il discorsetto dopo tutte le sessioni che stiamo uccidendo zingari, bambini, donne. No, c'è cioè, tipo il mio momento di un po' di, come si dice, di... ridicolezza. No, di... incoerenza. Di sfogo. Direi che ho fallito il tiro volontà, quindi faccio quello che suggerisce Vez. Quindi estraggo una spada. È vero, siamo mostri! I mostri sono su di noi! non avrebbe senso ucciderlo, dovremmo litigare in teoria, quindi lo faccio svenire, basta, devo tirare tutti i miei tre punti feriti. Come fai a farlo svenire? Mi è ammazzato in testa. Il pomo della spada qui. Sì, ho capito. Che gli tagli in due il collo proprio così. No, il pomo, al massimo gli spacco. No, lo puoi lasciare gli spacci, sto povero. Al massimo gli spacca la spina dorsale e l'attaccatura. Va bene, tira per colpire. Userò solo. Ma come per colpire? Il classico abitante del villaggio con il collo da uno senza colpirlo. 22 e 25. L'hai colpito. Mancato. Ai danni. 21 danni. Okay. Vez è pronto per essere campione. Lo fai svenire. Non letali. Ma torna, lo dici. È la prima volta che faccio i danni non letali. Vorrei sì, è vero, danni non letali. Quando i danni non letali li fai quando infliggi l'ultimo colpo che ucciderebbe uno, puoi decidere di non ucciderlo e di farlo svenire. Lo puoi fare chiaramente solo in corpo a corpo. Cioè, quindi adesso questo è ok, no, è stabile però. Sì, sì. Ho potuto fare i danni non letali anche a Milivoji. Ho sparato con una vabbè, feccia. vabbè, non è... Andiamocene da questo luogo oscuro. Okay. Quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Peccato per gli altri corni. Io direi di andare al cerchio. A riposare. A riposare. Sì. Ok. Pat, quindi... prendi con te il teschio? Sì, ah, ma merda. Ho fatto delle... posso capire se secondo me è magico fare un conoscenza arcana o qualcosa? Sicuramente è magico, anche perché l'avete visto volare fino a poco fa. No, nel senso... i draghi volano, magari, eh. Magari non è magico il teschio, ma ce l'ha castato sopra le due cacate. Anche Giulio non è un tirannosauro, normalmente. Dici? Non so. Magari non è vero io. Vai, andiamo a sto cerchio. Quindi, la presenza delle rune ti suggerisce il fatto che sia stato reso un oggetto magico. Il fatto che queste rune siano incomprensibili. Il fatto che io l'abbia praticamente spaccato è quello che non ho spaccato. Vabbè, quello il grosso è ancora intero, però... Ah, io non ho fatto un buon lavoro, allora, ci ritorno. Posso provare a usare Mending? Sì, puoi provare a usare Mending. E tu, sfortuna, se esamini il teschio, ti accorgi che le scritte sono le stesse che c'erano nel manuale che hai trovato nel cadavere della strega che azionava il trabucco che sparava i teschi che al mercato mio padre comprò. Anche quello era in nanico strano. Sì, ma faceva impazzire chi lo leggeva. Esattamente. Capisci che anche queste scritte provocherebbero lo stesso effetto. Sì, allora faceva impazzire Kevin, che conosciamo tutti Kevin, la sua affidabilità, visto che è scomparso con Irina. Scomparso con Irina... Vuoi provare a leggerlo? No, perché io non lo capisco. Tu avresti potuto... Allora fa impazzire chi lo legge. Ok. Allora, io Katta non l'ho detto, l'ho dato per scontato, ma faccio vedere a tutti la statua. Vedete magari tutti lo stato. Viene in mente qualcosa di quindi ora ripeterò la descrizione ma più lentamente. No, ok, arrivate al cerchio di pietre e vi ricordate appunto che la magia di quel luogo protegge gli stolti dalla divinazione, ma non protegge dagli sciami di insetti. Chiaramente non sono sciami di quelli che fermiamo, se prendo il cadavere della strega lo piazzo lì fuori. No, ma avevamo trovato un modo, però non avevamo trovato un modo. Sì, se ci sono dei corpi. No, se c'erano dei corpi si concentrano sui corpi. Torno indietro, prendo il cadavere della strega e lo piazzo fuori dal cerchio. Ah, quando tu dici quando avete incontrato i barbari. Esatto. Però poi voi sì, ve ne siete andati via, quindi vi siete allontanati parecchio, tenerlo comunque lì vicino. Beh, non lì vicino, lo metto lì, lo piazzo da qualche parte. Beh, però scusa, se piazziamo delle torce, il fumo non li allontana? No, anzi, la luce ne attira di più. Sì, la luce sì, ma il fumo magari un po' meno. Ci abbiamo perso, scemo. Puoi provare a farlo e in breve noti che ce ne sono troppi per quelli che vengono scacciati dal fumo, non sono una quantità sufficientemente ok alta, vabbè, possiamo creare una capanna però. C'erano insetti lì dalla casa di Roccata. C'erano nella casa di Roccata. Potete immaginare sì, che... Assaltato. Sì, ma magari sì, aveva evocati la strega. Sì, li aveva evocati la strega, però comunque di quelli che ci sono naturalmente sono come quelli che sono qua. Potete pensare di... No, ce n'erano? Come, no. Scusa? Dalle capre montoni, non c'erano questi insetti? Sì, sì, cioè sono quelli che ci sono di default in questa palude. Vabbè, allora non è che rompono particolarmente il cazzo, cioè sì, ok, sono quando ti fermi, no? Ma quando ti fermi sì, che ti muovi e vai in giro non li sopporti, ragazzi, ogni tanto questi montoni fermi in un recinto, cioè nel senso che sarà un fastidioso. No, beh, quelli nel senso. Scusate, ma non possiamo creare una sorta di costruirci una capanna, tipo. Cosa era successo a quei montoni? Qualcuno li aveva, di voi li aveva inceneriti o sbaglio? No, avete rotto il recinto, li abbiamo scappati. Se abbiamo fatti scappare, non ci sono. Ah, prendiamo il montone che ce lo mangiamo. Va bene. Ormai sarà putrido, sono passate ore. No. Non marcisce in così poco tempo la carne, Marco. No. Si mangia. Ma, allora, ma se noi ci muovessimo, se noi marciassimo, quanto dove arriveremmo? Allora, arrivereste. Cioè, è passata qualche ora, non è che è passata. Io sarei per costruire invece semplicemente una capanna. No, allora, noi dobbiamo riposare perché io ho 9 punti ferita. Pat che ne ha 32, Sfortuna sta bene, Garrosh ne ha 28... Resta bene, guarda, stanno bene. Sì, anche se cioè, o Arci ci fa dei gran cura ferita o un riposino lo dobbiamo fare. Allora, proviamo. Anche se li faccio tutti, ne ho tipo 4. Allora, vediamo dove arriviamo. Cioè, se arriviamo molto avanti, fuori dalla cosa degli insetti, potremmo andare. Il discorso Vez è che se incrociamo uno scontro mentre andiamo, siamo fottuti. Allora. Beh no, voi siete fottuti. 35% degli uomini mentre in smart working tra 35 e 44 anni si masturba. Tu non rientri nell'età, ma confermi? No, in realtà no. 35-44 mentre fa smart working si masturba. No, in realtà mentre no, non avevo ufficialmente che... Cazzo, è dura masturbarsi per 8 ore al giorno, No, non avevo il tempo. Allora, le vostre opzioni sono quelle di ritornare da dove siete venuti. Poi Archivez è un realista immaginifero, quindi cioè... No, stiamo nella stessa corrente politica. Non è... Fosse un iconolatra, già sarebbe più facile. Beh, perché aprirebbe un'altra scheda e metterebbe su... Vabbè, può lasciare aperto quella lì mentre pensa a te. Cosa vuol dire? Di fianco avevo il mio computer. Comunque vabbè, bei tempi, allora. Inutile rivangare. Masturbe il lavoro, bei tempi. No, bagni di Porto Maggiore fanno schifo. Vedete la mappa? La vediamo. Il Porto Maggiore. Le vostre opzioni sono Porto tornare dove siete venuti in 6 ore di cammino, oppure andare al castello dell'ordine del Drago d'Argento. Ma direi di no, perché dobbiamo riportare Doug. Sapevo che Vezzo avrebbe detto così. Ma si può già volare, non ha un cazzo di corpo. Se si riprendesse, sì, saremmo a posto. Vabbè, ma è allora. Perché non hai suonato abbastanza e ricomincio a suonare. Va bene, no, mi piace. Allora, andiamo dai Menhir, facciamo una mega capanna. Con cosa la fate? Prendiamo robe della vecchia capanna. Saranno degli stracci in giro di qualunque cosa, cioè, a meno che tu non ci dica catta che una delle case di questo villaggio è utilizzabile e non ci implica, cioè, magari possiamo con dei teli. Le case sono tutte inutilizzabili, in rovina. C'è una zona in cui siete stati che è effettivamente abbastanza chiusa. Cioè, non ci sono gli insetti? O comunque c'è il modo di topparlo per evitare che entrino. No, la casa della strega è... La cantina. Esatto. Se vi chiudete in cantina, di fatto gli insetti lì non ci arrivano. Ma no, scusa, non possiamo fare una capanna, cioè una tenda, tipo? No, saprei con cosa. Dai, scuogliamo un po' di montoni. Non avresti abbastanza pelle. Andiamo in cantina, è semplice. Dai. Possiamo fare un riposo in cantina e poi partiamo. Ripartiamo un giorno in cantina, davvero? Serious? Cosa cambia? Va bene, dai, stiamo. Abbiamo passato una notte in un pollaio. Incastrati in un pollaio. Era più romantico. Cioè, cantina è proprio triste. Hanno fatto la tacca panni. No, se tu dici che non posso farla. Non abbiamo niente. No. Facciamola in cantina, arrostiamo il montone e beviamoci il vino. Ok. Ovviamente facciamo i turni di guardia. Pizza in pale. Pizza in pale. No, dai, ci sta. Apriamo sta cosa di vino, fanculo. Ok, il vino è ottimamente stagionato, ha un profumo e un sapore che non hai mai assaggiato prima ed è una cosa che inebria i vostri corpi e i vostri spiriti. Io chiedo a... Quindi quanto si guarisce? Io ne verso un po' nella bottiglia di vino di strada che mi porto dietro ma che ormai ho finito. Okay. Allora, io posso chiedere a Sfortuna se come muovi terra può farci uno spiazzo dove dormire per non dover dormire in acqua. Certo, potete usare i detriti che avete spostato per bonificare quella parte di palude. Ah, perché c'era la possibilità di dormire. Se no possiamo fare così, io suono mentre tu sposti i detriti delle acque. Va bene. Così gli abitanti di Barovia diranno hanno fatto anche cose buone. E chi di voi fa questo riposo in compagnia della boccetta d'olio? Infatti domani prendiamo il treno per ripartire, sarà in orario. Tutti gli oggetti, Katta, perché nessuno li ha voluti, quindi dici di tutto a me, poi io li distribuisco. Ok, a chi dai la boccetta d'olio? Cosa fa? Io. Cioè, okay. Ma se tanto facciamo un riposo lungo... Più o meno gli oggetti erano i due strumenti, la boccetta le frecce, delle pietre per la fionda, se ho capito bene. Proiettili per la fionda. Io capo avevo tirato un 24-25 la piatta grossa, cose per la fionda. Cos'è il coso grosso, scusa? L'agata che da stare in casa la tieni in mano. Comunque. Va bene, io tengo la boccia. Se passiamo un riposo lungo lì, tutti analizziamo un po' tutto, cioè ce le passiamo, le guardiamo insieme. No, dice che se stiamo con il proprio oggetto guida, lui si rivelerà a noi, questo sto dicendo. Sì. Per quello dico ce le passiamo, no, quello sto dicendo. E allora non hai capito un cazzo. No, devi fare un riposo tenendolo vicino a te. Scegliere uno. Dormire con un peluche. Quindi sto oggetto, fammi fare due tiri anche a me. Esatto, quindi Sala si sceglie uno tra la cornamusa e il coso di Electrum. Allora, il coso di Electrum ce l'avevo già. Allora, si prenderà la cornamusa. Era dalla tana del mucchio. Comunque, in breve, gli oggetti sono l'olio, è un olio della, come si dice, puzzosità, affilatezza. Squalità. Un olio affilatore. E può essere usato per ricoprire un'arma. Ah, ok, no, per l'oggetto, ok, sì. Un'arma che sia o perforante o tagliente. Oppure fino a 5 munizioni. E applicare l'olio richiede un minuto, dopodiché per un'ora l'arma ricoperta ha un bonus di più 3 all'attacco e ai danni. Ah! Ed è magico. Questo è l'olio della... Grazie. Questo è il prossimo oggetto che perderemo. Yeah. Però è un consumabile, quindi se lo consumate prima non spagnate la tosta, quindi l'olio o un'ora o dura un'ora e lo puoi mettere o su un'arma o su 5 munizioni. Ah, un utilizzo, quindi usalo prima che lo perdiamo. Bah. Usalo ora. Dolci di corvo. Vabbè, io uso un martello, per cui affilare un martello. Meo Giulio, lo tengo io per ora. Mi tagliente e perforante. Te lo segni tu? Comunque. Ma se... la stessa dose per una tagliente e per una perforante? Se io ci intingo la punta del mio stocco, lo consumo come tutta la lama della spadone a due mani. Ma non hai detto se io ci intingo la punta del mio, stavamo per cadere. Okay. L'agata cosa fa? L'agata è una pietra di buona fortuna. Come si chiama l'olio in inglese? L'olio della affilatezza. Posso provare a migliorare sharpness. I tiri di dado sharpness. Tenendola. La pietra è una pietra della good luck e finché sta addosso al suo possessore, questo ha un bonus di più uno alle prove di abilità e tiri salvezza. Oh, nice. Ok, questa me la tengo. No, vabbè, aspetta. No, aspetta, se no diamo. Si riesceo che fa. No, io non arrivo giù lo mio. No, per le abilità no, non mi interessa più. No, diamola chiusa di più le abilità. Semplicemente. Io. No, abilità tiri salvezza. Tiri salvezza a me serve. Anche a me. Servono a tutti i tiri salvezza, Giulio. Chi è che si è beccato il dito della morte in faccia? Che ce lo farà pesare fino alla fine. Cioè... Posso lanciargli un dito della morte anche se non ce l'ho. Chi si è beccato il dito della morte in faccia? Tu. La tua... Sì, è vero, ti sarebbe servito per il tiro salvezza. La tua cornamusa è una cornamusa perseguitante. E per usarla bisogna essere competenti con gli strumenti a fiato e a tre cariche. Cornamusa usare... si chiama? Cornamusa? Oh, Pipes of Haunting sarebbe, sarebbe cornamusa perseguitante, cioè una... presente quando c'è quelle canzoni. Secondo voi, mi sta meglio questo spiace qui? Ho capito, o questo spiace qui? Cioè nel senso che il tormentone che ti entra in testa e non esce più, no, ma è anche è esattamente la musica che ha suonato prima, e anche ti assilla, ti... No, sì. È dispersito, non era competente, quindi non ha funzionato. Comunque, chi può usare questo strumento può spendere una delle sue cariche per suonare questa canzone appunto ossessionante, e ogni creatura entro 30 piedi che la sente deve superare un tiro salvezza e diventare spaventata per un minuto. Se desideri, le creature che non sono ostili a te superano automaticamente il tiro salvezza. Grazie. Quindi puoi fare qualcosa di ossessivo, quindi tipo è follia. E infine, chi dorme con le proiettili da fionda sono 10 proiettili più uno. Peccato non usare Norwegian reggaeton, potrebbe stare. Esatto. Vai, andiamo. Ah no, sì, dobbiamo far riprendere Martinkov. Cosa fanno i proiettili? Sono le proiettili più uno. Ma nessuno di noi ha la fionda, cazzo. Esatto. Vabbè, se li lanci con le mani, però uguale. Più o meno. Diciamo che puoi prendere, come dire, un po' un tessuto, un fazzoletto e fare di quelle fionde. Sono delle pietre più uno. Comunque, raga, ho appena scoperto questa cosa. No, scusate, ho sbagliato. Però, l'ho scoperto. Congratulazioni. È una cosa molto più bella. Perché non me l'hanno presa? Martin, in che stato versa stamattina? Si risveglia ed è più tranquillo. Ah, grande. Vedi che le porte sono servite. Doug Martinko. Voi siete andati, di fatto siete andati a letto a metà giornata. E quindi finché il sole, supponete, era ancora alto nel cielo, dato che non si vede per via della nebbia, e il vostro sonno è tranquillo. Cover di Despacito, carino. E per cui i vostri amici, i nostri amici, no, stai zitto, dobbiamo ascoltare. No, i nostri amici che avevano gli incubi la notte, sì, ovvero Stalla, Vardistran e Garrosh. Di giorno invece riescono a dormire sonni tranquilli, recuperando ottenendo i benefici del riposo. Easy, dobbiamo dormire solo di giorno, è perfetto. Esatto. Agile. Sì, avete fatto arrabbiare la madre notte. Avete? Oh. Avete? Le colpe si distribuiscono. La legge... Che cattivoni. Va bene, mentre voi decidete dove andare, io vado in bagno. Allora, Doug riprende anche tutti i suoi, tutte le sue ire. No, oh, finalmente posso cancellare un po' di cose. No, oh, che bello, sono full. Le ire recuperano anche col breve. No, col breve. Che breve, facciamo lungo. Ma lungo, chiedo, sì, lo so, ma normalmente l'ira barbarica si recupera col lungo o col breve? Lungo. Credo col lungo. Con lungo. La conferma. Io parlo con Doug Martinkov. Doug... ti ringrazia di cuore, dice mi avete salvato da quella orribile creatura e l'avete uccisa, adesso siamo liberi finalmente dalla sua malvagità. Potremmo adesso io confermo la mano, c'è infilata la strega. Hai piantato la strega là fuori, non ce l'hai lì. Allora vado da Doug e gli dico Doug, aspetta che bevo un po' d'acqua. Doug, che ho bevuto molto la sera prima. E Doug Martinkov, questo è il tuo nome, ricordi? Sì, mi ricordo. E vi racconta che cosa è successo praticamente con suo fratello. Non ti ho chiesto questo. Non ho ancora sbloccato questa parte del discorso, aspetta. No, raccontami Doug, raccontaci dai. Stavano portando le attrezzature della vineria per fare il trasloco quando sono stati sommersi da questo mare di tentacoli neri che ha distrutto il carro e suo fratello è stato ucciso. È moccio! Il Kraken. E lui nel panico si è tramutato in un corvo, è stato colpito, è svenuto e si è ritrovato al suo risveglio nella gabbia insieme ai suoi simili. Purtroppo anche i corvi dalla strega che praticamente si divertiva a torturarli e a, praticamente le urla, gli strazi di dolore dei corvi erano musica per le sue orecchie, quindi li faceva di ogni angheria. Questo incubo per te è finito, Doug. E mentre lo dici senti tu turu turu tu tu. Per sfuggire a questo invece di incubo dovrai volare a Kretsk. Sei in grado di farlo? Sì, mi sento in forza adesso. Molto grazie. Bene. E allora vola. E allora va. Attenzioni. Ho allora giusto va. Un po' di mal di testa, ma vabbè, niente di. Allora va. Dietro. E saluta Martinkov e digli che come avevamo promesso ti abbiamo liberato. Qua. E vola via. No, fermo. E avrà bisogno di te perché il tuo fratello di Vallachi, il cui nome al momento non mi viene, è in pericolo e avrà bisogno di tutta la vostra forza. Continuate. Quindi deve andare a Kretsk o Vallachi? No, okay. A Kretsk. Però deve sapere che avrà un ruolo, cioè il più importante, non è che può trasformarsi in corvo e farsi catturare ogni 2x3. Va. E ora va. Porterò la buona novella della sconfitta della strega. La strega è morta. Noi proseguiremo nel nostro cammino cercando alleati per sconfiggere il maligno. Va bene, si incammina. No, vola. Si invola. Ah, ok. No, si incammina, poi allora inizia a tirare il freno. Vabbè, per uscire dalla cantina si incammina, poi. No, deve volare sotto anche dalla cantina. Vola, Doug, vola! Anzi, tipo, lo prendiamo di peso, tipo in braccio, lo portiamo su una rupe. D'accordo. Quindi, di fatto è... il momento che precede l'alba, che precede lo scuro, buia della giornata. Ed è il momento in cui ci incammineremo. Per andare dove? No, non ci conviene muoverci di giorno. Tanto uguale. Ma gli insetti dove sono di giorno? No, di notte ci sono gli insetti, sì. Sì. sono sempre gli insetti. Ma è solo giorno, perché di notte magari, cioè, magari sono più roba in giro. Chi l'ha detto? Di solito di notte è piena di terrori, no? Era. Quindi vogliamo rimanere qua a berci al fine del vino? Beh, dobbiamo rimanere qui, cioè, quasi l'alba, ha detto. Sì, manca tipo un'ora e mezza all'alba. Ah, allora sono è il momento più buio che precede l'alba. Vabbè, aspettiamo l'alba e alle prime luci dell'alba facciamo colazione con il resto del montone il vino. Ok, classica colazione energetica. Spiedini di corvi. Davvero? Sei sicuro? Sì. No. Dice ormai sono morti. E come cazzo si chiamava l'altro Martin Cove? Elvir. Urwin. Ah, quello sì. Di Vallachi. Urwin Martin Cove. Ma quindi quante se ne sono? Adesso c'è il vecchio Davian, Urwin a Vallachi, Dag che avete salvato, e poi altre le varie suocere, mogli dei figli e nipoti. Però dei figli sono sti due qua? Direi di sì. Ok. Ok, quindi la mappa. Allora, praticamente adesso siete di fatto a un tiro di schioppo in linea d'aria dal castello dell'Ordine del Drago. Ma c'è una montagna. Sì, questo è in cima alla montagna e voi siete sotto. Quanti c'è da scalare? Mi piacerebbe capirlo quanto è una linea di questa mappa. Non c'è un sentiero? Il sentiero c'è. Allora, il sentiero normale dovreste farvi 4 ore e mezza per arrivare all'incrocio sul fiume, poi 3 ore a ovest nella foresta, poi fare un'inversione a U e 2 ore ad est per arrivare. Ma mi sa che è l'unico modo in realtà. Al castello. Dipende, se non sono 8000 metri possiamo scalare. Esatto, quella è la via tranquilla ma più lunga. Ma vuol dire che non c'è un sentiero? No, non c'è un sentiero, ci sono delle pareti di roccia più che altro. Esatto, quindi direi che va bene farci le varie ore. D'accordo. Perfetto. Non ti si sente? Ecco perché si sta così bene. Sì, non ti sentiamo. Non ti sentiamo. Hai anche una faccia un po' stupida mentre le fai. Stacca le cuffie. Ok, secondo me Katta, purtroppo se non c'è un sentiero, cioè a meno che tu non mi dica, temo che non si possa fare nulla se non fare le varie cose. Tutto a posto? Allora vediamo un po' se ho incontrato qualche cosa lungo il cammino. Come dici, Sfortuna? Non posso usare il plasma terreno per fare delle rampine nei terreni più impervi per agevolare lo stadio? No, perché è roccia e e funziona con la terra morbida. No, nel senso, mi prendo un po' di terra dalla palude e me la porto sopra. Tipo Minecraft, togli un blocco e metti un blocco. Fai il gradino, togli il gradino. Se non hanno 2000 metri possiamo scalarla, cioè... E vorrei capire anche io l'altezza in realtà, vediamo se Google comunque se tipo Minecraft io metto su dell'ossidiana e vado nel Nether. Esatto, ci siete già nel Nether in realtà, solo non lo sapete. Possono scalarla, Arci può anche volare sopra volendo. Sì, ma la peggio posso anche evocare 2 piccioni e vi portano su. Cazzo, se siamo già nel Nether è un casino, perché non c'è ossidiana nel Nether, anche perché fanno diversi giri le aquile in un'ora, perché non c'è acqua. Vez, magari gli fanno rifare l'esperienza di prima. Portano su e lo fanno e lo mollano. Tu mi porti su e poi mi lasci cadere. Vabbè, io, Giulio e Vez scaliamo, gli altri li porta su Arci. Devi vederlo Vez che scala, lo vedo già spianato. Vediamo vede la mappa. Ti vede il dildo di Vez? Eccolo. Dipende... là. Ok. Adesso ve la condivido. Col dildo di mezzo. In pole position sempre. Vabbè, ma è più usato in smart working quello. Ecco, vedi, più realista che immaginifico con quello. Vorresti vedere... Ah no, devo condividervi l'altra finestra. Cambia finestra. Non è farina e bamba. Vediamo. Allora. Oh, in 3D. Esatto. Hai fatto fare del 3D? Non l'ha fatta lui. C'è uno che si è sbattuto e l'ha fatta in 3D. Minchia. È OP. Perché ce n'è di gente che non ha un cazzo da fare? Voi siete molti qua. Sono più vicini di quanto immagini. Muovermi. Ah, è così caldo. Che cosa dite sta frase? Ah, cosa, Aldo Gianni Giacomo? Oh, cosa fa? Sa... Sì. È cambiato prospettiva. È la mappa in 3D. Vabbè, solo... stabilisci okay. Quant'è. Sì, ok. Perché vedendo così, volevo trovare un modo esatto, vedendolo in questo modo posso dire che se questi qua, questo ha mantenuto le distanze, dovrebbero essere... ceduto la possibilità di farci andare in salita? No, sto verificando quanto è in alto. Cioè, se dobbiamo scalare l'Everest, ok, facciamo prima fare il percorso, se sono... conta fino a un certo punto, cioè nel senso se non c'è una strada... Dobbiamo scalare e non mi pare, cioè, nel senso, io per primo mi sarei fatto un po' ma giustamente voleva sapere quanto c'era in Athletics. È vero. Ma posso usare Plasma Terreno per fare una montagna alta quanto quella montagna, così poi camminiamo e basta? No, non puoi. In teoria, in abbastanza turni potremmo. No, l'unica è che se riusciamo a utilizzare il teschio e le aquile. Ecco, le aquile potrebbero trasportarci. Sì, abbiamo già pensato. Allora, vediamo un po'. Ho già detto, Bez, invece di segarti durante lo smart working fosse qua... Stavo prendendo il gelato. Sì. Si dice anche così adesso. Il gelatino. Allora, sì, potete pensare di riuscire a scalarlo. Allora, la scaliamo... Quanto è alta, Kat, ha detto? Fai conto che sarà un dislivello di... 600 metri. Vabbè, 600 metri si fa, no? Sì, hai dato Alex Donald. Allora, io Giulio Bosi non lo saprei fare. Ero presume che sia capace. Insomma, un conto è scalare con scarpette magnesite, un conto è scalare con l'armatura, le spade... Basta, ho un piotto in Athletics, non rompo il cazzo. Va bene, va Giulio. Bene. Precipiterai urlando. Ditemi la vostra strategia di scala. Non puoi invocare fare... delle aquile che ci portino su? L'avevo proposto io, ma Giulio vuole andare pareti. Su con gli occhi bendati, in mezzo alle caviglie, facciamogliela fare. Invoca le aquile, per carità. E rimettere il piede lì, dai, su quella fessura a forma di... Quante ne puoi fare, Arci? Allora, ditemi la vostra strategia di scala. Le aquile che evoco fanno le stesse cose che ti hanno fatto fare prima, ti portano su e ti mollano dopo un po'. Tu mi porti su... No, beh, in realtà, scusami, se le possiamo partire anche questo dal bar, è troppo bello giocare. Posso anche trasformarmi io e fare diversi giri, così non consumo neanche l'incantesimo, tanto non c'è mica fretta. No, lo sai. Vabbè, ma quando sarà difficile scalare? Cosa? Io faccio le mie super acrobazie, tecniche, destrezza e fiche efficacine dell'Arcane Trickster per salire. Cioè, siccome ha carisma alto, si finge una roccia e lo fanno passare. Mi fingo uno scalatore. Esatto. Okay. Ti dice la roccia, credimi, io sto salendo. Allora... Giusto, se uso Silent Image per diventare una roccia, posso... Poi cosa? No. Comunque, tu, Patk, se evochi due aquile e diventi... No, un'aquila... mi trasformo io. Quanto ci metterei a fare un giro, secondo te, Kat, con la velocità dell'aquila? Direi che la velocità dell'aquila che sta trasportando un grave, direi che in un'ora arrivi su. Sì, e loro quando ci mettono a scalarla? Ci metteranno quelle 4-5 ore. Cioè, scusa, un'aquila ci mette un'ora a fare 600 metri? No, un'aquila che sta trasportando un ciccione. Ah, non è un arcantrister, poi magro. Ok, un arcantrister ci mette mezz'ora. Triste. Vabbè, beh, ma non puoi fare le due aquile e fare tu, così intanto andiamo in tre. Arci trasporta sulle persone, intanto qualcun altro scala. Poi... Gli altri poi magari gli vado incontro quando sono a un po' di metri. Quanto durano le aquile? È che le aquile durano un'ora, l'evocazione. Io duro 8 ore. Con la madre di Kai, volevo dire con l'aquila. Vabbè, allora basti anche... No, aspetta, duro un'ora per livello, sì, 8 ore. Beh, allora scusami, non stare a fare le altre aquile, puoi anche per assurdo ma fare basta, tutto. Basta, quello che dicevo io, infatti. Per non sprecare un altro incantesimo. Fai tu, sei lì a tirare il braccino, che hai visto? Cioè, tu non hai idea di... L'hai mai vista la scheda di Arci? No, non penso che l'abbia mai fatto. No. Cioè, tu l'hai mai vista, Sceo, la scheda di Arci? No. A me è capitato di vederla l'ultima volta che non c'era. E ti posso dire che Arci non può fare il braccino, mentre siamo noi lì che diciamo, oddio, uso questo potere o no? Lui non gli deve fregare un cazzo, gli deve stare spammare, gli deve spammare. Ovviamente Katta non l'ha detto nessuno, ma è ovvio. Lui potrebbe sfotterti, farti le due acque davanti e dire, non mi piace quel piumaggio, via questo incantesimo, via un nuovo incantesimo. Questi è vero, non ho così tanti. Questi, cioè, mi piacciono, per quelli voglio risparmiare. Questi mi piacciono di più. Queste sono delle tigre, Arci. Ah, giusto, è vero. Via così. Ovviamente, Katta, cerchiamo di non... sulle tigri. Cerchiamo di non arrivare sulla porta dell'edificio. No, no, cioè, è un po' distante dal punto in cui vi lascio. Comunque, a parte che Sceo può camminare sulle pareti. Quindi... Io posso, infatti, io non ho. Infatti, Sceo non lo sto contando. E poi Sceo non ha preso il divento... mentre fa l'ascensore, porta pian piano sulla gente e gli altri che scalano volendo uno posso prendere il braccio. Ok, chi è il primo che porti? Il primo che porto è Salla. Ok, perché è quello che Katta ci metto meno in teoria, no? Katta, volendo posso portarne uno anch'io. No, tu se vai tranquillo, se sei da solo carichi uno. Sei un druido? No, vabbè, cammino no. E allora attieniti ad essere un personaggio normale. Lo sai fare perché non hai delle cose da grosse da trasportare. Non è poi porto sulla corda a Salla, lo faccio diventare un gorilla gigante, dico ora tirali su. Trascinati contro la roccia della parete. Stavo scherzando, perché non abbiamo mai comprato 600 metri di corda poi? Allora, Race, arrivi sopra. Nel frattempo voi che state sotto, osservate le stesse scene che avete visto quando... Che è svantaggio? Di default. C'è il mail. Ti dà lo stealth, mica l'athletics. Non l'athletics? No, certo. Se vuoi scalare stealthato devi tirare contro. No, pensavo anche a scalare, a nuotare. Già ti fatto a rotolare verso sud. A nuotare sì, però. In teoria no. Sì, a nuotare sì. No, nella 3.5. Perché non c'è più nuotare. Anche perché c'era nuotare. È vero, c'è athletics. E c'era anche scalare una volta. Però se vuoi fare con svantaggio, basta che lo dici. No. Adesso sei a un buon livello di athletics, ti butti in acqua e vai a delfino. Vai, facciamo sto athletics. Va bene. No, non lo so, dimmi tu, aspettiamo. No, intanto ci incamminiamo. No, volevo solo capire la vostra strategia. Adesso ho capito che per primo porta Rage. Se non vuol fare le acque, per secondo porto Giulio. Io appena arrivato subito comincio ad esercitarmi con la corna musa. Oh. Ok. È vero che stai mangiando, Marco? Non lo so, intanto ci incamminiamo, così forse... Un rosolo di lardo e fragole. Garrosh e Vardistran si incamminano e cominciano a scalare. Lardo e fragole, sembrano quelle robe del Lidl. Il mio è un 9 complessivo. Ok. Ho fatto 1. Quindi sfortuna, immagino, verrà preso dopo Giulio. Sì, o ti metti a scalare anche tu. No, sfortuna. Potevo scalare dopo Salla. Sfortuna. No, lo prendo fatto su prima te. Perché metti caso che mentre io sto facendo sti giri su, arriva un rompicazzo. Almeno c'è qualcuno che picchia. Ah, io mi nascondo, Arci. Va bene. Adesso anche gli incantesimi, invisibilità, ciao. Sfortuna, allora, di appunto, dopo rimarrebbe solo da solo sfortuna. Vai, Race, creami un D20. Ecco, appunto. Storia. Comunque nell'ora che ci mette a portare su Race io un po' scalo. No, mezz'ora detto, per Race. Vabbè, in quella mezz'ora io un po' scalo. Perché a metà lo di 8 e un di 4. No. Ok. 32. No, c'è il D12. Bene. Tu sei lì che stai suonando i tuoi strumentini, la cucina dei becchini africani. Lo rimetto? No, grazie. Quindi tu vai giù e vai a prendere quindi Atanas, giusto? Sì, nel frattempo un po' ho scalato, ti faccio una prova giusta. Va bene, così vediamo di quanto si accorcia il suo... 16. Ok. Arrivi a buon punto e poi arriva un'aquila gigante che ti ghermisce. Che cosa fai? Vabbè, so che è Arci, mi lascio prendere. Via, animale! Poi arrivo io. Giulio, dove sei? Beh, ci stava. Un'aquila gigante tendenzialmente... Qua ci stava lo scontro con Rock. Perché probabilmente io peso di più dell'aquila gigante, se vogliamo. Qua ci stava lo scontro con Rock. Con la barba e mentre Arci era via, tipo, vedete arrivare un'aquila gigante, ma poi vi accorgete che è Arci un Rock. Ah, iniziativa. Quello è veramente... Invisibilità, ciao. No, voi eravate via. Io l'avrei fatto. Subito. Immediatamente. Sarà in modo, dai. Da master. Dopodiché, subito, immediatamente. Quindi... Giulio arriva dove sta sfortuna. Tira un di 20, Giulio. Dove sta Race? Scusa, che cazzo di... 11. Ok. Stai mezz'oretta lì ad ascoltare la musichetta che sta suonando Race. Per lo stesso pezzo per sempre. È l'unica musica, in realtà è l'unica musica che mi piace, quella che suona Race. Tira un di 20. Cosa? Sfortuna, un di 20. Perché sfortuna? Perché il prossimo. Sei sceso, hai preso sfortuna. Ah, perché c'è la possibilità che durante il tragitto qualcuno cada. Sarebbe abbastanza. No, ho fatto 3. Sarebbe okay. Sfortuna. Ah, hai ragione. Esatto. Vedi un'aquila gigante che ti ghermisce. E poi arriva Arci e dici sfortuna, dove sei? Va bene. Oh, e basta, ormai. Ormai non fa più ridere. Impazziamo tutto. E portato sulla cima. Nel frattempo Garrosh aiuta Vardistran più che può per completare la scalata e vi ritrovate in cima alla torre. E davanti torre, a voi... È diventata una torre questa... Quindi c'è una scena di... C'è anche la torre. Sarebbe passato Katta da quel giorno da turno? No, siamo in cima alla montagna o in cima alla torre? Siamo in cima alla torre. Della io e Vez siamo al due Giovanni che devono raggiungere Giacomo. Quindi. È che nel tempo che voi siete saliti, io ho fatto una torre e sono salito sopra. Per suonare. Turnica. Quanto ci ho messo Katta in totale? Arrivate più o meno insieme, fai conto che ci hai messo tra una cosa e l'altra un'ora e mezza, quasi due. Alla fine, Katta, devi dire che c'era il sentiero. Ah, quello è la prima cosa che vi ho detto. Allora, era un po' più lunghino. Va bene. No, c'è il sentiero per tipo scorciatoie. C'è l'ascensore dentro la montagna. Era. La torre c'è davvero, perché in questo castello c'è anche una torre che la sovrasta. E vedete che spunta dalle nebbie. Le solite nebbie che c'erano quando siete arrivati per la strada all'andata, dalle quali periodicamente spunta qualche figura fatta di nebbia di un soldato di un'antica battaglia che continua all'infinito a combattere per poi dissolversi di nuovo. A un certo punto vedete che dalla nebbia si forma la sagoma di questo gigantesco drago e lo vedete cadere in picchiata contro delle schiere di nemici, sferzando la sua coda contro i ranghi avversari. ad ogni colpo che vibra. Che drago è il drago? Beh, sembra Race quando... È un drago d'argento, sì, sembra Race quando non gioca. Gli avversari come sono? Gli avversari sono dei soldati in armatura. Mio Dio, è l'intro di segno. Sono fatti di nebbia, quindi i dettagli non si distinguono bene. Giulio? Cioè, poverino, stava chiedendo, cioè, delle cose. Nel senso, c'è una descrizione limitata e tu hai dei dettagli in più. Gli darei Inspiration se non ce l'avesse già. No, non ce l'ho, l'ho usata l'ultima volta. Non mi oppongo con Inspiration. No, infatti non te la do, però te la meriteresti. Non è vero, ma non è vero, ma non è assolutamente vero, no. No. È per l'intenzione. Cioè. Raga, abbiamo preso Inspiration per piani orrendi, per cui ci poteva stare anche per questa cosa. Era molto divertente. E ogni volta che questo drago di nebbia libra il colpo con la sua coda, la nebbia si squarcia e vedete attraverso gli squarci questo castello in rovina. E il castello ha al centro questa alta torre, alla sommità della quale c'è una specie di come si dice, tipo un non dico tipo un faro, però un punto in cui può essere necessario per fare una fiamma. E una vedete torre che... di segnalazione. Sì, tipo i fuochi di Amunen. Bello. Esatto. Io ora che so, dovrei cominciare ad andare in branda. Del genere. Wow. Adesso tra poco ti seguiamo. Sì, esatto. Finisco la descrizione. Tanto bello la posta, catta, cazzo, fai di tutto per non farmi rimanere. Ciao, ascolto la descrizione, così mi addormento meglio. Esatto. Dovreste vedere la planimetria. A me non lo fa vedere, sì. Sì. E... manca il cosino rosso che ho scritto tu sei qui. Ci sono le vostre pedine. Tra l'altro tu ne ho messe anche di nuove se le volete scegliere. Le minchia vedi? Lì in basso a sinistra dall'entrata. Qui alla scala. Ok. Quali sono io? L'orso gigante. Ci sono di più, se no vi tengo quelle vecchie, ditemi voi. Ascolta, Katta, ti farò sapere. Cosa ci aveva detto? Cioè, com'era stata la cosa con il cavaliere errante? Il cavaliere errante vi aveva detto... ha detto di andare qui e convincere il tizio a uccidere strada. Ok. E voi si chiama? Il cavaliere come si chiamava? Sì. Ok, no, vabbè, quello che doveva convincere... si chiamava, perché il titolo della puntata era Zombie, come la sigla. È vero. Lui era Ori Ordan e il capo invece come si chiama? Vladimir Ongard. Vladimir. Vladimir. Ok. Beh, hai fatto di peggio in diretta, ti vorrei. Esatto. Cos'è? C'è Katta? C'è che si lava i denti e Arci si lamenta quando in bagno lui ha fatto. Si è capito, ma io non inquadro. Cosa sta succedendo? Mentre pisce, cioè, un caldo alla faccia. Ma raga, non vero, non ho capito. Ma raga, questi sono momenti di vita vera, cioè, ma che fallo. Cioè, se si lava i denti deve inquadrare i piedi. Arci, stiamo trasformando il format di reality show anche. Se volete che Sheo si lavi altre parti del corpo, mettete like. Aspetta, abbiamo un fan che se lo chiede. Facciamo un sondaggio, volete che si lavi in diretta la palla destra o la palla sinistra? C'è anche che sfida volete, anzi chi volete sottoporre a una sfida e quale sfida? Non menti sul giro. Vai, no. Mangia H24. Di... c'è stato solo Iac che ha citato il gladiatore. Nostro top fan. Allora, davanti a questo castello in rovina c'è una statua che raffigura appunto un drago molto vecchio. Almeno non è di nuovo Irina. Esatto. Il lato destro del castello, guardandolo dalla facciata, è completamente distrutto ed è praticamente esposto alle intemperie. Guardando da lontano vedete che praticamente è tappezzato di ragnatele. E dietro al castello c'è una piccolo recinto con un cimitero. E ah, fortunati. Separato in una struttura separata vedete una struttura che può essere, capite, essere praticamente un mausoleo, una tomba più nobile, più ricca, insomma. Cata? Che, sì? Scusami, visto che io sono ancora Aquila, immagino che tu ci stia già raccontando tutto, però come ultima azione prima di andare a letto, siccome avvantaggio le prove di perception da Aquila, faccio una specie di sorvolata generale. E nonostante il vantaggio ho fatto 13 di dado, però mi sa che ha più 6 l'Aquila. E noti che appunto nella parte in rovina che è stata distrutta vedi che in mezzo a queste ragnatele si muovono dei ragni grossi, più di quanti tu ne riesca a contare. Grossi tipo una mano o grossi tipo una grossi tipo ragni giganti? A più adesso. 4 in perception, quindi taglia media. Più 4, ok. E poi di fianco appunto a queste ragnatele c'erano delle rovine che capisci essere delle, una volta erano le stalle. Mm-hmm. E sorvolando il mausoleo vedi che praticamente sul tetto ci sono ai punti cardinali 4 statue di argentate, insomma, con la ricoperte di argento, che raffigurano 4 gargoyle con delle forme draconiche che si sporgono dal tetto. E, sono grandi i gargoyle? Di taglia media, come una persona. Possiamo usarli come arma, peccato. E, beh, i tuoi occhi di Aquila vedono che c'è un nome che è scolpito sopra l'ingresso, e quel nome è Arginbost. È il nome da Matteo Mellon. E sapete che questo castello si chiama Arginbost Hold, che sta per il castello di Arginbost. E per quello che riguarda il tetto, appunto c'è questa torre con sopra il braciere, e sui due bastioni che sono rimasti vedi due baliste. E anche il tetto in rovina e c'è un grosso buco al centro. Ok. Senza fare battute sul grande uccello e la grande buco, io vado giù, torno nano e faccio riferimento e racconto tutto quello che ho visto dall'ispezione. Ok. Io sembravano funzionanti o rovinate dal tempo, come le baliste, come ci si aspetterebbe, funzionanti ma rovinate dal tempo. Sì, sono rovinate dal tempo ma funzionano, ma sono ancora integre, diciamo. Non so se possono ancora funzionare. E oltre a queste ce n'era più al centro, non su un bastione, ce n'era un'altra che però invece era completamente distrutta. Ma funzionante. Sì. Allora, raga, vado in branda che sono cotto. Buonanotte. Ciao. Buonanotte, ragazzi. Ciao. Come siamo rimasti con l'ex arcana e roba del genere? Settimana lunedì prossimo. Ah, abbiamo ripreso a fare lunedì. Serora, sì. Cadenza okay. Settimanale. Esatto. Va bene. Perfetto. Dai. Ci sono lunedì prossimo. Ciao. Ciao. Bella, raga. Bella. Ciao. Ciao. Ok, ditemi il personaggio che vi piace di più. Per ora tengo quello l'altra volta. Ok. Io prendo quello più grande. Vabbè, ve li ho ingranditi per farveli vedere meglio. Boh, prendo quello più grande di tutti. Però. Quello dell'altra volta. Ma va bene. Ah, io vorrei giocare Vardistra. No. Va bene. Cambialo, cambialo. Ma io... No, perché va bene, scherzo, Vardistan proprio Vardistan, non Vardistan in persona. Ah, io mi sono scopro un nuovo potere in cui mi posso sdoppiare. No, era per chiederti se preferisci quello nuovo o tieni quello vecchio. No, voglio quello più incazzato, barbuto, arancione. Per vedere se caghi il cazzo, il mio nuovo. Infatti. No, ce ne sono due. Tu vuoi diventare questo, Race? No. Posto così. Qual era il mio nuovo che non l'ho cagato? Allora... No, cioè mi va bene quello vecchio, però sono per... Poi sono io che cago il cazzo. Questo, l'ho anche scritto il nome correttamente. No, tengo quello vecchio. Okay. Però col nome nuovo. Sfortuna... Quello nuovo. Quello nuovo. Patk, vabbè, uguale. Vardistran, vecchio barbuto o... Ah, eri una donna. ci sta. Beh, se posso prendere il vecchio barbuto a sto punto. Giusto così, almeno... Questo è quando sei stato trasformato dalla punizione che ti ha invecchiato. Esatto. Vabbè, okay. Poco importante. Ma io sono nero. Sì, vabbè. Sì, tu sei... Vabbè, adesso... Dica. Ho cambiato pelle. Vabbè, molto... Se dobbiamo fare una gara di ballo freestyle. Vai, bussiamo alla porta. Bussate alla porta. Sì, è un castello di paladini, manderei davanti il paladino, onestamente. Beh, sì. Vladimir Ovengraord. Orngard. Vladimir, quello che è. Putin. Siamo qui a chiedere il tuo saggio ausilio. Apri le tue porte, siamo amici. Ok, davanti senti, alle... Senti, chiavistello che chiude. Che cazzo. Andate. Non vogliamo niente. Il portone principale è fatto da un portone di legno con delle bande di ferro arrugginite. E i batti, come si chiamano quelli che usi per bussare? Battenti. Battenti. E hanno la forma di piccoli draghi. E, sull'architrave sopra l'entrata c'è la parola Arginvost Hold, castello di Arginvost. E, ok, nel momento in cui metti piede sull'ingresso, e sentite un rumore provenire dalle vostre spalle. E praticamente vedete la statua del drago che era... Non è alle mie spalle, è davanti a me. Tipo qua. Se voi andate qua all'ingresso, la statua è dietro di voi. Sì. Ma io non sono ancora all'ingresso, io lì sono dietro alla statua. Solo Vardistan si è avvicinato. Ok, grande risposta, maledetto, comunque a te. No, comunque la statua. E vedete che la statua spalanca la bocca con un rumore di tipo di antichi meccanismi malfunzionanti, e dalla bocca esala un soffio di aria gelida, e dopodiché si richiude. E l'aria non è sufficientemente fredda a causare alcun danno, ma capite che probabilmente una volta, quando questo meccanismo era nuovo e ben oliato, sarebbe potuta essere una trappola mortale. Barristan, ho la sensazione che stia cercando di ucciderti chiunque sia dall'altro. E quindi alla fine cosa mi succede? Hai un po' di pelle d'oca, ma tutto qua. Va bene, è tempo di sfoderare di nuovo il mio simbolo sacro e brandirlo contro la porta. Io... Ma non è porto... senza simbolo, lui non l'ha preso strada. No, probabilmente intende lo scudo Germani. L'ho rifatto. Ah. Ma non posso, ma è, cioè, è chiusa in che modo? No, non è chiusa, non semplicemente è chiusa. Ha solo si è attivata nel momento in cui qualcuno ha messo piede sul... qua sull'ingresso. No, faccio una posso fare e vado anch'io dove va Arristan a vedere se si riattiva. Il meccanismo non si riattiva, probabilmente. Vabbè, ci vuole del tempo perché si ricarichi. Vabbè, mentre loro si guardano intorno, io provo a esaminare la trappola e vedere se riesco a disattivarla in qualche modo. Ok, vai, visto che è un meccanismo, ci sarà un... Questa statua, che cazzo devo tirare io per le trappole? Dipende quello che fai. Di solito è investigation, però di fatto si può usare anche perception. È volutamente fatto in maniera che uno possa usare quello che ha. Ah, va bene, investigation 18. Ok. Capisci che questo meccanismo serve ad attivare un oggetto magico. Quindi non è la parte meccanica riguarda giusto l'attivazione. Dopodiché, evidentemente, questo oggetto nel tempo si è deteriorato e quindi la sua magia non è più tanto forte. Allora, sì. Io con mano magica provo a staccare il meccanismo, cioè a rompere il meccanismo e a tirare fuori l'oggetto, se riesco. Ok. E ti tiro, uso i miei attrezzi da ladro, posso usarli? Esatto, quindi fai una prova di destrezza e poi aggiungi proficiency. Sì, sono un 24. Ok. E praticamente estrai dalla bocca di questa statua un cilindro, e all'interno del quale vedi questo pezzo di ghiaccio che però non si scioglie. Il cilindro di granito, e su questo ghiacciolo ci sono però delle crepe. Me lo inculo. Buon per te. Oh, se ti piace, cioè. Ma infatti, poi qui. Va bene. Ok. Il portone è aperto? È aperto. Può essere spinto per entrare. Vai. Apri queste pesanti porte e di fronte a te si vede l'ingresso. Questa stanza ti sembra quasi come la tomba di un re. C'è una grande scalinata che porta al piano superiore, e retta da colonne di pietra e dagli archi tra le colonne. C'è un alto arazzo che ormai è sbiadito, che raffigura un nobile uomo in un'armatura d'argento, con in mano uno scettro di ferro, ed è penzola l'ammezzato qua. Vedete il mio mouse? Sì. Unità. Dal baldacchino, no? Cos'è? Dal... Esatto. È l'ammezzato praticamente, il pianerottolo. Uh-huh. Ah beh, okay. Sì, ne ho capito. Con le rampe. E ai fianchi di questo stanzone ci sono sei doppie porte. E lungo i muri ci sono dei diversi piedistalli di marmo. E su questi ci sono tre busti di alabastro di uomini molto, molto belli, affascinanti, insomma, raffigurati in maniera magistrale. E un quarto busto è caduto, è stato rovesciato, e ci sono i suoi resti sparsi per il terreno di il pavimento decorato col mosaico. C'è una targa? No, sono semplicemente dei busti. E ci sono due candelabri che penzolano dal soffitto come se fossero dei giganteschi ragni neri. E... Sono candelabri, sono ragni neri? No, sono candelabri, però evidentemente vi voleva ricordare che questi candelabri sembrano dei ragni giganti, giusto per non mettervi a vostro agio. Vabbè, I busti che ci sono raffigurano diversi uomini sempre, ma sono tutti più o meno somiglianti uno all'altro. Sono tutti? Più o meno somiglianti come aspetto. Classico, l'ordine dei paladini. Cosa vuol dire? Siamo mica in Alabama. Ok. E provo a presentare il mio simbolo sacro. Uh-huh. E dico Vladimir Hovengrad. Horngard mi manda il prode cavaliere Oriordan del tuo ordine. Sono qui insieme ai miei compagni per discutere con te di questa oscura situazione che affligge l'intera Barovia. Ti prego, manifestati, poiché così che si possa parlare in pace. Quando pronunci queste parole, una ombra gigantesca si muove attraverso la stanza e percorre i muri come se fossero un gigantesco paio di ali, e dopodiché scompare, ma continui a sentire nell'oscurità come se ci fosse un sibilio, come si chiama il verso del serpente? Sì, sibilio. Mm-hmm. Ok. Sì. Sibilo, grazie. Sibilo. E qui ci sono sei porte e finestre, e poi si va sotto anche. Porte. Sì, c'è la scala che va sopra, e ci sono. Pure sei doppie porte. Sì, le doppie porte. Scusate. Due alla tua destra, due alla tua sinistra, e due davanti. Quella alla tua destra sai che conducono alla zona in rovina, che è completamente infestata dalle ragnatele. Okay. Posso fare una prova di religione per capire un po' cos'era possibile? Certo. Si è attesa? Suppongo di sì. Quanto hai fatto? Boom! Così. No, è che 17 più 3. Ok. Dilla tutta. Comunque, hai l'impressione che questa presenza... E questa è una presenza che infesta questo luogo. E dai racconti che avete sentito dell'ordine che sorgeva qui, sapete che venne sconfitto da Strad in persona. E il drago d'argento, che era anche il simbolo di quest'ordine, venne ucciso in battaglia. Poi chiaramente poi hai buona ragione per credere che la sua anima sia ancora in pena e infesti ancora questo luogo in cerca di una redenzione, forse, magari esplorando potresti avere più indizi. Bene. E niente, proseguiamo in uno dei lati. Tu vuoi chiudere la vasca? Esploreremo, sì. Nella prossima sessione esploreremo. Sì, direi. Esplorare in Dungeons and Dragons. Direi che possiamo farlo la prossima, in effetti. Allora, chiudiamo qui? Non vuoi fare un colpo di scena, un colpo di coda, Katta? Beh, era questo il colpo di coda, questa ombra gigantesca che... Io ogni tot chiamo. Ah, mezzanotte, grande. Aspetta che mi spoglio. Ok. Cosa? Cioè, perché la notte c'è una certa cosa. È finita la fascia protetta adesso. È finito il towel day. Ecco, aspetta da tutto questo tempo per dire questa puttana. Grande, non è la puttana, il 25 maggio il towel day. No, hai ragione, hai fatto bene, Sala, a ricordarlo. Non mi ero accorto che avevi un asciugamano addosso. Scusate la mia ignoranza, sarebbe il giorno dell'asciugamano. Ciao. Sono 2 settimane dopo la morte di Adam Douglas. Il giorno dell'asciugamano come omaggio a Guida Galattica. A volte era il giorno dei vasi di Pettunia che cadevano dalle finestre, poi per il numero di morti hanno deciso. È vero. Va bene, va bene. Vabbè, dai, l'esplorazione di una casa mi ricorda l'inizio. È vero. Eravamo allo stesso prima sessione. Questo avrà un castello, se non... È vero, è vero. Speriamo che non sia così. Beh, spero ci sia un caminetto. Così da sfogare. Speriamo che non ci siano tutte queste descrizioni. Ma sappiamo che ci sarà. Tornerà l'Atan Scasinaro con i cori da stadio, perfetto. Va bene, va bene, va bene. Poi stato ci sarà io che ogni 2 per 3 dirò: venite fuori così e loro, basta. Esatto. Va bene, va bene, va bene. Allora, questo era l'episodio 50 della maledizione di Katta. Grazie per averci seguito, per averci ascoltato, e se ci ascolterete, se ci state ascoltando sul podcast, continuate a farlo, sempre Tycoons & Dragons RIP GDR. Tra l'altro oggi non ho che presentato i miei ospiti, mi sono accorto adesso, ma li conoscete, Francesco Arcidiacono non l'avete visto prima, e lo facciamo al finale: Marco Bosi, esatto. Giulio Bosi, Edoardo Saladini, Stefano Gabberoni, io Andrea Giacomo Vecchi e Enrico Cattabriga. Tutti noi vi diamo la buonanotte, buonanotte, e vi diamo appuntamento anche alle prossime sessioni con Tycoons & Dragons RimGDR. Nella prossima settimana probabilmente ci vedrete impegnati di nuovo nella campagna dell'Ex Arcana con Umbra Imperi, ma rimanete all'ascolto, rimanete sintonizzati sui nostri canali, perché ci saranno ovviamente come sempre articoli, novità, meme e dispute su quando avverrà la prossima sessione e anche pacchi dell'ultimo minuto, anche se oggi non ce ne sono stati. Pacchi. E niente, pacchi. La scatola misteriosa. Scatola misteriosa, esatto. Esatto. Bene, alle prossime quindi. Katta, vuoi lasciarci un pensiero per questo 50° episodio? È vero. Dai, sentiamo. Spero che ci siete quasi. Portate pazienza e verrete ricompensati a breve. Il falso. Attenzione, solo altre 12 sessioni. Faccio una domanda al gruppo. Secondo voi quanto ci ha messo il master a trovare oggetti magici poco utili? Cioè è riuscito? No, però non è stato bravo, perché quella dei quadrelli non gli è uscita benissimo. È vero, no, secondo me sono della campagna, sono fatti così, è proprio una campagna che però è stato bellissimo. Trovate dei quadrelli per balestra. Ah no, è vero, proprio così, è vero. Cioè, volevo dire dei proiettili per fionda, mi è uscito con quadrelli per... Certo, sì. sì. Trovate una spada Vorpal più 5, volevo dire un coltellino per il buco. Del cesto più 1 della pulizia. Un centro tavola più 1, anzi no, più un mezzo. E... Va bene. Nessun problema. Alle prossime, ancora. Tycoons & Dragons, RGDR. E buona botte. Ooh, ready.